Diamo inizio a questo incontro. Prima di iniziare vorrei ricordare che questa assemblea, dibattito, che ha un titolo impegnativo, liberare la Rotte dal codice penale, fa parte di una serie di iniziative che gli spazi sociali, altre realtà antifasciste della città che partecipano al percorso del 25 aprile hanno costruito una sorta di calendario per arrivare appunto a quell'appuntamento e fare in modo che quest'anno, più degli altri anni, sia un momento di lotta antifascista significativo in città, perché ce n'è proprio bisogno. Credo che tra di noi non sia nemmeno necessario spiegare il perché. Questa iniziativa in pratica anticipa di due giorni un anniversario tra i più sconosciuti. Noi un giorno facemmo una piccola prova, una verifica per sapere quanti ragazzi e ragazze che frequentavano VAG conoscevano la data del 7 aprile e sapevano quello che era successo. Più del 90% non conoscevano appunto quello che era avvenuto. Sono passati 40 anni, noi siamo particolarmente legati a quell'avvenimento, in primo luogo perché al piano di sopra, tra i materiali del centro di documentazione dei monumenti Francesco Russo e Carlo Giuliani, abbiamo un fondo 7 aprile che è il materiale dell'inchiesta veneta, dell'inchiesta romana e di quella nazionale, che ci fu donata da uno degli avvocati che avevano partecipato appunto al collegio di difesa degli imputati del 7 aprile. Abbiamo fatto una scheda come centro di documentazione che racconta nel dettaglio sinteticamente quello che avvenne, e quindi non voglio dilungare su questo tema. Poi faccio un ragionamento su quello che il 7 aprile ha rappresentato e rappresenta ancora oggi. Un'ultima informazione che per noi, anche dal punto di vista emotivo, è molto importante: abbiamo deciso per i 40 anni del 7 aprile di dedicare la stanza dove il fondo 7 aprile è contenuto a Egidio Monferdin. Egidio Monferdin è un compagno scomparso qualche anno fa, molto conosciuto nel movimento a Bologna, aveva partecipato attivamente alle prime lotte per i diritti dei migranti in città, ha partecipato a varie iniziative sui temi del carcere, è stato un attivista del centro sociale XM24, in qualche modo partecipò anche alla nascita di VAG, perché era presente il giorno in cui venne occupato lo spazio in via del Gardino 61, che poi ha dato il nome a questo centro sociale. Gino Monferdin fu uno degli imputati del 7 aprile e fu uno di quelli che per il 7 aprile fece più galera, se non vado errato. E quindi ci sembrava giusto ricordarsi di lui in questo modo, e poi prendendo un impegno che sull'attività di Egidio cercheremo di fare altre iniziative, insomma, perché il lavoro politico, l'impegno umano è stato rilevante, quindi secondo noi va assolutamente ricordato. Detto questo, stasera parliamo di lotte sociali e di penalità. Penalità che, diciamo, è stato lo strumento che in tanti decenni è lo strumento principale con cui lo Stato si è rapportato ai movimenti sociali nel nostro paese. In una recente assemblea che c'è stata al Cinema Palazzo di Roma, dove si cominciava ad affrontare questi temi, lanciando proprio una proposta che dovrebbe essere una proposta nazionale da sviluppare poi in altre città. Questa è una delle iniziative, insomma, che dal Cinema Palazzo sono partite. Nel mio intervento parlavo brevemente dell'autunno caldo, anche qui, non perché sia un anniversario, ci sono 50 anni, quest'anno l'autunno caldo si portò come conseguenza più di 15.000 procedimenti penali. I reati che vennero sollevati nei confronti di operai, studenti, militanti politici, dei movimenti extra istituzionali, sono abbastanza simili a quelli che oggi vengono utilizzati come forme di reato nei confronti dei movimenti sociali attuali. Si parlava di occupazioni di fabbricati, occupazioni di suolo pubblico, blocchi stradali, devastazione e saccheggio, picchetti non autorizzati, manifestazioni non autorizzate. Alla fine di questo anno straordinario di lotta, che poi ebbe, diciamo, fu in qualche modo il proseguimento delle lotte del 68 e che ebbe poi una coda che è durata fino al 77, nel 1970 il movimento di massa, gli operai studenti, riuscì ad imporre al Parlamento, senza avere nessun rappresentante in Parlamento, un'amnistia che sanava tutta la penalità legata a quelle lotte e cancellava i reati fino a 5 anni di carcere, perché nella relazione appunto della legge d'amnistia si diceva che quel tipo di penalità non poteva essere affrontata attraverso il codice penale, perché era una questione politica e sociale che era stata posta dai movimenti di lotta in quegli anni. Oggi diventa molto difficile pensare a qualche interlocutore istituzionale all'interno del Parlamento italiano che possa avere la sensibilità per affrontare con un criterio simile quello che si sta producendo. Una ricerca dell'Osservatorio sulla repressione ha stabilito che i procedimenti penali negli ultimi anni sono più di 18.000, insomma, nel corso di questi ultimi anni, quindi arriviamo già a numeri che sono simili a quelli di quel periodo. È molto difficile pensare che nel Parlamento, con un 99%, forse 99,9% di politici manettari, ci sia un tipo di sensibilità che possa produrre quello. L'ultima vicenda in ordine di tempo è quella dell'approvazione della legge che abolisce il rito abbreviato, che era uno dei pochi strumenti per svicolare dal tema dell'ergastolo nel nostro paese, e questa legge è stata approvata anche con la legge proposta dalla Lega con il voto favorevole di LeU. Può essere comprensibile la cosa, il leader di LeU era il giudice Grasso, quindi è chiaro che c'è tutta un'impostazione conseguente, però questo è il dato con cui dobbiamo fare i conti. Questo non significa che ci sia la necessità di intervenire come movimenti di lotta rispetto a questa tematica. Non può più, almeno dal mio punto di vista, essere lasciata al caso per caso. In primo luogo perché c'è una sorta di continuità da parte di chi ha utilizzato il diritto penale contro le lotte in questi anni di portare a termine questi processi fino al processo di terzo grado. Quando le condanne cominciano ad andare definitive, poi in realtà ci si finisce, e oggi stanno andando definitivi procedimenti legati a esperienze di lotta del 2010, 2011, 2012, 2013, con anni di galera che cadranno sulle spalle dei compagni che sono stati colpiti. E se questi compagni hanno perso un legame con la realtà di movimento con cui negli anni precedenti avevano fatto un percorso insieme, rischiano di pagarne individualmente, quando questi processi sono il frutto di scelte collettive, e quindi è una responsabilità collettiva che i movimenti devono avere rispetto a questo tipo di problematica. Quindi questa questione è una questione che, secondo il mio punto di vista, come così tanti altri compagni, deve essere al centro della discussione e deve marciare a fianco dei movimenti di lotta. Non c'è il pericolo di cadere, dal mio punto di vista, nella famosa spirale repressione, lotta alla repressione. C'è il fatto che con questa questione dobbiamo fare i conti, perché anche gli strumenti che vengono utilizzati sono molto diversificati e sono molto usati intelligentemente. Per esempio la questione delle multe. Recentemente a Bologna è andato in definitivo un processo per l'occupazione della stazione per un quarto d'ora in seguito ai fatti avvenuti in Valsusa, per rispondere a dei processi repressivi avvenuti in Valsusa, sono stati condannati 11 compagni, oltre alla pena legata, diciamo così, agli anni, cioè ai mesi di carcere che sono stati fibbiati, c'è una pena pecuniaria e c'è anche un risarcimento spese che di 25.000 euro che l'FS hanno chiesto per disagi prodotti appunto al blocco dei treni. Questo è un esempio, ma ce ne sono tantissimi, insomma, di un utilizzo sempre più ragionato anche di questa forma. Per esempio l'utilizzo che in questa città per primi abbiamo visto dei provvedimenti come i decreti di dimora, i fogli di via, anche qui un utilizzo selezionato che andava a colpire i compagni più in vista di un collettivo piuttosto che un altro. Questi provvedimenti che hanno tenuto distanti dall'attività politica ma anche dalla vita che ogni persona portava avanti hanno prodotto degli effetti, non è che non hanno prodotto nulla, perché comunque hanno fatto allontanare dal movimento di lotta per un periodo di tempo consistente, perché poi un altro ragionamento che va fatto è che questi provvedimenti non sono temporali, non hanno una scadenza, possono essere riprodotti quasi in eterno, perché è una decisione del giudice che può essere riproposta diverse volte. Quindi questo altro strumento, quello che da qui a un po' di tempo andremo a verificare, l'aumento delle pene per i blocchi stradali, la lotta sulla logistica sono stati uno degli elementi di novità dell'orizzonte di movimento e l'iniziativa di classe in questi anni, hanno fatto emergere questo nuovo soggetto sociale. L'aumento delle pene propositato per i blocchi stradali va a colpire queste forme di lotta che sono state utilizzate soprattutto dai lavoratori della logistica. Quello che in qualche modo rimane chiaro nella mente di chi si occupa di queste cose è il fatto che comunque una scelta politica fatta alla fine degli anni 70, in primo luogo con l'inchiesta 7 aprile, dove le politiche dell'emergenza, l'eccezione che andava a modificare la regola esistente, perché c'era l'aggravante che veniva data appunto per i reati di lotta armata, ma non solo, insomma, per tutta una serie di comportamenti sociali che si verificarono in quegli anni. Questo tipo di politica di emergenza l'abbiamo vista ripetersi di volta in volta, l'abbiamo vista ripetersi per esempio in Valsusa, l'abbiamo vista ripetersi con gli ultimi episodi dello sgombero dell'asilo a Torino, insomma. Quindi quel tipo di politica è una politica che è stata utilizzata in tutti questi anni, e se oggi molti dei politici che sono al governo ma anche all'opposizione hanno costruito la loro carriera sul giustizialismo e sulle manette, hanno seguito, diciamo così, la scuola di uomini come Cossiga e come Pecchioli, che all'epoca erano gli uomini del partito della non trattativa, della rigidità dello Stato nei confronti appunto di certi comportamenti sociali. I Di Pietro, i Salvini, i Minniti, insomma, in modo diverso seguono quella scuola. C'è un altro aspetto che secondo me è un aspetto importante: l'Italia è rimasto l'unico paese europeo dove persiste una penalità che porta al fatto che ci sono ancora delle persone in galera o esiliate rispetto ai processi di lotta degli anni 70. In tutti gli altri paesi europei, dove c'erano state anche modalità forse anche più toste, diciamole così, che l'Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania, non esiste più questo tipo di situazione. In Italia persiste e abbiamo visto recentemente come è stata. Oggi sono 38 anni che Mario Guaretti è in galera. Appunto, come anche su questo terreno c'è un utilizzo ormai quotidiano che viene riproposto. Allora, per tutta questa serie di ragioni, secondo noi c'è la necessità di aprire una discussione politica seria con i tempi necessari per svilupparla, per far sì che sia un confronto e un percorso che cerca di mettere insieme tante realtà diverse, perché su questo terreno si va avanti uniti, cioè una parola che non piace, però si va avanti uniti, altrimenti tutti siamo insufficienti rispetto al bisogno di dare delle risposte concrete. Un percorso che intanto deve creare convinzione all'interno dei movimenti sulla necessità di parlare di queste cose e poi insieme costruire da qui ad alcuni mesi anche un'iniziativa nazionale che apra una discussione e faccia delle proposte per vedere anche se ci sono le condizioni perché questa questione venga posta, sapendo che un'interlocuzione istituzionale non c'è in questo momento, ma si possono creare le condizioni attraverso i percorsi che conosciamo, che sono percorsi di lotta, per far sì che questo tema entri in un'agenda politica non solo nostra. Sì, intanto un saluto dalla Valle di Susa che continua a resistere nonostante i tempi che non sono certo favorevoli, saluto da parte del Movimento Notav che, come ben sapete tutti quanti, tanti di voi anche in Valle sono venuti, lotta da 30 anni. Diciamo che il famoso teorema Calogero, che sta alla base del processo 7 aprile, sicuramente ha elementi in comune con la repressione come è venuta a svilupparsi nel tempo riguardo a quelli che sono i movimenti sociali. È uscito un bel libro ultimamente proprio di Xenia Chiaramonte che fa un parallelo tra il processo 7 aprile e appunto i processi al movimento Notav. Qual è l'elemento comune? Il fatto è che si tratta di processi politici che vanno a colpire le persone per quello che fanno, per quella che è la loro storia, per quello che può essere il loro futuro e per quello che diventa anche un elemento pericoloso per il potere. Un processo, diciamo, alla persona, alle idee, alle cosiddette ideologie che in questi tempi si sono allargate infinitamente perché il capitale è uscito, lo sfruttamento del capitale è uscito dalle fabbriche sui territori. Il principio è sempre quello, il principio della rapina. La rapina della vita di noi tutti, la rapina del futuro, la rapina di quelli che sono i diritti. Ed è proprio rispetto a questo e a chi lotta contro questo che si alza la repressione. Ai tribunali è affidato più che mai in questi tempi, e non solo in questi tempi, proprio il governo della conflittualità sociale. E il processo diventa intanto un deterrente per chi vuole lottare, no? Quindi fa paura. La paura è il tentativo di tagliare le gambe alle lotte con le denunce, con una repressione che per altri versi però indica anche un'altra questione. Il movimento No TAV ha cominciato a subire la repressione nel momento in cui ha cominciato a far paura al potere. E quindi sono sempre i due aspetti della stessa questione. I processi sono anche però diventati un elemento come mezzo per le indagini, per acquisizione di dati, cioè per, indipendentemente poi dai risultati stessi dei processi, valgono di per sé, valgono come raccolta dati, valgono come controllo capillare di quelle che sono le vite delle persone e le lotte sui territori. E difatti a questo mirano per esempio il movimento No TAV. Beh, intanto sono ormai 51 processi in atto che stanno per aprirsi, ci sono 1500 tra indagati e già processati, ci sono stati compagni che hanno avuto anni di carcere preventivo tra l'altro, e poi parleremo di questo, delle cosiddette misure preventive, che sono un elemento sicuramente con cui il potere cerca di tagliare le gambe alle lotte. Perquisizioni noi ne abbiamo avute tantissime. E quale fine avevano? Non tanto di trovare prove di colpevolezza, ma di acquisire dati, dati sulla vita delle persone e dati sul movimento. Io ricordo per esempio uno dei primi delle prime accuse, tra l'altro, di terrorismo, vennero date ai nostri ragazzi, ai ragazzi del Comitato di Lotta Popolare, ed ebbero, arrivarono proprio nel 2013, il giorno in cui, tra l'altro, stava per arrivare la famosa talpa in valle con cui dovevano iniziare il famoso maxi sondaggio, che poi è stato completato ed è l'unica cosa fatta di una linea ad alta velocità che non esiste affatto. Sequestrarono dei documenti, sequestrarono i computer, vennero anche in credenza perché qualcuno di questi ragazzi aveva la residenza in credenza, e buttarono all'aria i miei libri, e mi ricordo cadde da questi libri... Spiegagli in credenza. Beh sì, la credenza, beh, tanti sanno che cos'è, è un po', è nato, la credenza è nata, era la nostra osteria, diciamo la casa del popolo, il posto dove si accolgono le persone, ed è nata nel 2005, proprio quando è nata la lotta concreta contro l'alta velocità, quando volevano arrivare e cominciare l'opera, che poi non cominciarono perché doveva essere fatta in un posto, e alla fine il movimento seppe opporsi concretamente, smontarono le reti che già avevano messo in piedi e quindi cambiarono poi il luogo del maxi sondaggio in un posto che poteva essere da loro difeso meglio, difeso anche con una militarizzazione della valle che continua tuttora, anche se il maxi sondaggio è finito. Ci sono ancora proprio in quel luogo della Clarea dove hanno eseguito il maxi sondaggio questa galleria di 7 km fine a se stessa, se non per il fatto che ha tirato fuori amianto e uranio in quantità, perché le nostre montagne sono ricche di questo. Ci sono ancora 200 tra carabinieri, forze di polizia e pure i militari, perché tra le altre cose la militarizzazione del territorio è concreta, perché ci sono i militari in arrivo dalle campagne di guerra che vengono a fare altre campagne di guerra in Valle di Susa, no? Proprio secondo la Valle di Susa è il luogo dei nemici del potere, no? È un altro mondo per loro. E, dicevo, da questi libri che sfogliarono, cioè tirarono giù per vedere cos'era, cade un volantino, era un volantino del 79 di Lotta Continua per il Comunismo, e quindi si buttarono su questa cosa. E io dissi, ma guardate che non c'entra con i ragazzi, perché loro sono nati molto dopo, quindi la famosa favola del lupo e dell'agnello vale anche per queste cose. Questi dati sono anche usati per altri processi, cioè il fatto di essere no SAR diventa un aggravante anche per altri processi. Pensate a quello che sta succedendo a quei 5 compagni che sono andati nel Rojava a combattere a fianco del popolo curdo. Hanno avuto delle pene, sono stati denunciati e soprattutto hanno avuto la proposta di sorveglianza speciale. Sorveglianza speciale perché il pubblico ministero che cosa dice? Devono avere la sorveglianza speciale perché in realtà sono andati a imparare ad usare le armi e loro, come appartenenti al movimento NOTAV, torneranno in valle e sono tornati in Italia e saranno pericolosi perché vorranno utilizzare quella pratica che hanno imparato altrove. Allora, l'essere movimento NOTAV, aver fatto del movimento NOTAV, diventa un aggravante della propria situazione e anche questo è importante. I processi ne abbiamo avuti tanti e sono tutti spalmati sulle veline della polizia. Quindi il legame è strettissimo tra quello che è il tribunale e quella che è la forza di inquisizione della valle. Pari pari le denunce hanno poi diventano pene proprio perché mentre le nostre denunce nei confronti della polizia, delle violenze che abbiamo subito non hanno mai seguito, dall'altra parte invece le condanne arrivano e fioccano. Lo stato di polizia noi lo respiriamo giorno dopo giorno e diventa anche proprio un insieme di misure preventive che vengono usate contro di noi. Le misure preventive nel momento in cui ricevi la denuncia magari se ne arrivano dopo un anno e che cosa fanno? Vengono a perquisire la tua casa e ti danno delle misure che possono andare dalla firma quotidiana al foglio di via, all'obbligo di soggiorno oppure agli arresti domiciliari. Queste misure preventive hanno una finalità chiaramente di controllo e anche di dissuasione nei confronti dei compagni, degli altri che fanno parte del movimento. Si parla di pene, sono stati comminati anni di carcere. Alcuni processi che in primo grado hanno avuto condanne, poi invece per quanto riguarda la Cassazione, quelle pene vengono poi assolutamente scontate. Intanto però i compagni hanno già fatto magari mesi e mesi di arresti domiciliari preventivi e tutto questo resta assolutamente a loro carico e nessuno mai li risarcirà di tutto questo. Oltre alle pene di questo tipo ci sono anche le pene pecuniarie, hai ragione, perché direi che per chi ha una famiglia, per chi ha una casa, fa quasi quasi più paura il pericolo di perdere la casa o di dover pagare fior di quattrini anziché magari farsi un po' di tempo in carcere. Questo purtroppo è un dato di fatto. Allora, rispetto a tutto questo, che cosa abbiamo cercato di fare noi per resistere? Intanto abbiamo avuto il supporto dei nostri avvocati, è nato questo pool di difesa, i nostri avvocati ci difendono gratuitamente, abbiamo messo in piedi una cassa di resistenza che serve proprio un po' per pagare le spese vive dei processi, un po' per dare anche aiuto ai compagni che finiscono in carcere oppure che perdono il lavoro per aver avuto denunce come notavo. E tutto questo è una cosa importante proprio per cercare di dare gambe ad un movimento che non vuole cedere. E rispetto a questo noi, proprio frequentando le carceri, abbiamo anche visto che cosa sono le carceri, luogo più che mai di repressione sociale, luogo di controllo sociale. Nelle carceri ci sono quelli che non si arrendono o ci sono i poveri di questo mondo. Sono luoghi, le carceri, non da migliorare, ma proprio da chiudere, perché dobbiamo fare un passo in avanti rispetto alla questione carceraria. Non basta promettere carceri migliori. L'alternativa al carcere è il carcere demolito, non è il carcere più bello, è la liberazione delle persone. Quindi pensate che cosa vuol dire rimanere poi in carcere per tutta la vita, quindi il famoso, vabbè, e poi magari in condizioni assolutamente di schiavitù peggiore, come per quanto riguarda le compagne e i compagni che sono in 41 bis. Allora, rispetto a tutto questo non basta stare a guardare, bisogna davvero che nasca un movimento forte e condiviso rispetto alla proposta di un'amnistia sociale, ma anche alla chiusura di questi davvero orrori come quelli del carcere del 41 bis, come quello di chi giorno dopo giorno perde la propria vita, magari con piccole responsabilità o addirittura soltanto con la responsabilità di essere povero. E tutto questo non può essere ignorato. Contro questo però che cosa serve? E beh, abbiamo bisogno che riparta il conflitto, ripartano le lotte. Non possiamo pensare che questo Stato, questa condizione, questo potere che ci sta schiacciando tutti non sia sordo a queste richieste. Allora, sono richieste sacrosante che dobbiamo portare avanti, ma possiamo portarlo avanti con le lotte che devono essere anche lotte sociali per una giustizia sociale che non esiste più, contro un razzismo sempre più dilagante, contro quel modello che è quello della guerra tra poveri, che è quello della sopraffazione sull'uomo, sull'uomo e sulla natura, che è quello del mercato, con la ricostruzione di un principio fondato sulla solidarietà tra persone, contro la devastazione della vita di ognuno e della vita del mondo. Dobbiamo mettere in piedi una nuova consapevolezza che si basa sul senso del limite, sul senso della armonia tra esseri umani e natura, proprio per sottrarre alla rapinosità di questo capitale, che è sempre lo stesso, anche quelle che sono le risorse che noi vogliamo vadano a chi verrà dopo di noi. È possibile vivere una vita diversa ed è quasi insperabile in questi momenti che sono sempre più crudeli e perversi. Che il potere sia assassino noi lo sappiamo bene. Agli inizi della nostra lotta no-TAV, ci sono stati anche dei suicidi in carcere di Sole e Baleno. Sole e Baleno erano due ragazzi anarchici, Sole e Baleno e Silvano, i primi che furono raggiunti da denunce e poi da detenzione proprio perché furono accusati di associazione sovversiva. Questo capitò nel 98, quindi agli albori della lotta, proprio quando il movimento No-TAV cominciava a scendere concretamente sul territorio con una lotta concreta. Le loro denunce furono poi assolutamente smentite dai tribunali di secondo livello, ma loro erano già morti. Allora, Questo è il potere, questo è il sistema contro cui noi dobbiamo lottare con la solidarietà, ma anche mettendo in campo con coraggio, con forza, cercando di allargare delle proposte che sottraggano i compagni che stanno marcendo e morendo in carcere nel silenzio generale. Io credo che sia arrivato il momento di rimettere in piedi intanto una rivoluzione culturale che dia altri concetti, altre speranze e altri bisogni alle persone, ma deve anche essere messo in piedi una nuova solidarietà e la capacità di sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato a ognuno da qualsiasi parte del mondo. E quindi non dobbiamo delegare ad altri tutto questo, dobbiamo avere la forza, il coraggio, la volontà di metterci insieme. Il Movimento Notav lo dice, è fatto di storie diverse, ma di una radicalità che è poi la nostra forza e che, nonostante i venti nemici, non ci farà certo cedere nel momento in cui arriveranno concretamente e cercheranno di riappropriarsi delle nostre vite e del nostro territorio. Sicuramente il Movimento Notav sarà in piedi, sarà pronto a difendere se stesso, ma anche le tante altre realtà che in questo paese esistono, che combattono spesso in silenzio e a cui è affidata la speranza di un futuro diverso per tutti. Buonasera a tutte e tutti innanzitutto. Ma io provo a fare un ragionamento, sperando di non essere frammentario, riprendendo un po' dall'introduzione di Valeria e quello che diceva ora Nicoletta. Voglio partire dai dati che già enunciava Valerio, da una inchiesta fatta noi come Osservatorio Repressione dal 2011 al 2018. Ci risultano che sono ad oggi, non proprio ad oggi, insomma, a fine 2018, insomma, 18.572 i denunciati per lotte sociali, 952 sono stati gli arrestati, 485 i fogli di via e 321 le sorveglianze speciali. Questi sono i numeri che sommariamente siamo riusciti ad avere un po' in giro tra legali, inchieste, facendo un po' di ricerche e cose. E parlo dei numeri che, come diceva Valerio, superano di molto il numero delle denunce avute durante un ciclo di lotte importanti nel nostro paese. E questi numeri però avvengono in una fase in questo paese di forte crisi sociale ed economica. Quindi io proverei a ragionare di che cosa sta succedendo oggi nel nostro paese e del perché è necessario e importante attaccare. E quando dico attaccare, è proprio questo, che noi dobbiamo uscire dalla dicotomia repressione, lotta alla repressione, e capire oggi del perché è importante attaccare la penalità. Perché la penalità, secondo me, è diventata l'impalcatura oggi del sistema neoliberista e dei governi che dominano l'intero paese, gli interi paesi europei e non solo. Perché credo che nella crisi i costi diretti producono la fabbrica della paura, provocando quell'ipersviluppo delle istituzioni totali con le quali si risponde all'insicurezza sociale. Negli ultimi 25 anni il 75% delle spese sociali sono state spostate verso le spese penali. Oggi io non mi meraviglio che nelle periferie delle grandi metropoli ci siano reazioni come quella che è successo qualche l'altro ieri, nei giorni scorsi a Torre Maura. Perché se noi non mettiamo al centro l'attacco alla penalità, noi avremo quegli attacchi lì. Perché in una situazione come nei quartieri periferici, in cui nel nome dell'austerity ti tagliano i presidi sanitari, ti tolgono le scuole, il welfare è totalmente devastato, però casomai ti riempiono di telecamere, di sistemi di videosorveglianza, di guardie private, in quel modo lì è facile far scatenare la guerra tra voi, perché manca l'elemento vero di costruzione, poi di rivendicazione, anche di costruzione di conflitto. Perché oggi ci troviamo in una fitta rete poliziesca dalle maglie sempre più larghe e siamo di fronte alla gestione poliziesca della miseria. E questo è stata poi l'espandersi in questi 40 anni in nome dell'emergenza di tutta una serie di normative speciali in questo paese. Ci sono una serie di leggi d'emergenza fatte in nome delle infinite emergenze prodotte in questo paese, dalla lotta al terrorismo, per passare alla lotta alla mafia, agli ultras, ai tossicodipendenti, a tutte le emergenze infinite in questo paese, in cui hanno prodotto una serie di leggi speciali. Tutte queste leggi speciali poi di fatto hanno contribuito a costruire un impianto penale che oggi lo viviamo tutti quanti noi. Allora io credo che l'importanza oggi dei movimenti per uscire dal proprio angolo e tornare ad attaccare profondamente dentro la società è quello proprio di mettere e di destrutturare l'impianto penalista che oggi compone e produce la politica in questo paese. Perché io credo che siamo di fronte a un diritto diseguale, marcatamente di classe in questo paese. Nicoletta parlava delle carceri. Io credo che la composizione carceraria oggi attuale è la proiezione della repressione globale. Cioè un terzo dei detenuti nelle carceri italiane è migrante, l'altro 70%, il 90% è meridionale. Questo è il frutto di tutto una serie, cioè se pensiamo a tutto quello che è stata la natura e la produzione, non solo in termini di chi la vive sulla propria pelle come tortura del 41 bis, ma in termini proprio culturali e sociali di quello che ha rappresentato il 41 bis del Mezzogiorno, come elemento fortemente di qualsiasi possibilità che tu puoi uscire da un elemento di ipotetico mafioso, camorrista, qualsiasi cosa, l'importante è che tu sia qualcosa che produci la delazione. E guardate, questa cosa qui, che può essere qualcosa che riguarda solamente una cerchia marginale, oggi diventa l'elemento dominante. Perché dentro l'elemento neoliberista, dentro l'elemento penalista, oggi tutti siamo diventati sorvegliati e sorveglianti. E non è un caso che qualche giorno fa 80 deputati della Lega hanno presentato una proposta di legge di controllo del vicinato che non ha altro che l'esaltazione dell'infamità. Cioè, se io infamo il mio vicino di casa, divento l'elemento civile di questo paese. Quindi essere spia diventa l'elemento, e quindi anche in questo io non agisco come elemento di costruzioni di nuovi elementi di socialità, ma divento l'elemento di costruzione di ulteriori elementi di individualità contro altre individualità. Quindi tutto questo entra nella tutela delle classi forti e della criminalizzazione di qualsiasi forma di dissenso. Ed è chiaro che in questo i movimenti sono stati quelli che di più hanno pagato il prezzo non solo della repressione, ma della trasformazione dal passaggio dallo Stato, da uno Stato sociale minimo a uno Stato penale massimo. Quindi la sicurezza pubblica è diventato l'elemento dominante a fronte di una necessità di sicurezza sociale. E lo abbiamo visto anche nel cambiamento proprio di paradigma delle istituzioni. Anni fa esistevano gli assessorati alla sicurezza sociale, gli assessorati alle politiche sociali. Oggi la stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali e regionali di questo paese hanno gli assessorati alla sicurezza, alla legalità. La legalità non è stato altro che in questi anni, purtroppo in questo, lo ricordava anche Valerio nell'introduzione, nominando un figuro personaggio come Di Pietro, insomma, ma io credo che in questi 30 anni il rincorrere alla cultura della legalità e purtroppo anche della stragrande maggioranza delle forze politiche di questo paese non è stato altro che una dichiarazione di guerra verso le lotte sociali e verso i marginali di questo paese. E quindi se noi non agiamo profondamente ribaltando tutto quanto questo, purtroppo saremo costretti di fatto a fare i conti sempre con numeri più maggiori di quelli che sono, di quelli che ho detto in precedenza, di compagni e compagne denunciati, di persone che verranno arrestate e che subiranno delle misure cautelari sulla propria pelle. Ma di fatto subiremo un ritorno prepotentemente verso quello che era considerato nell'anzian regime delle classi pericolose, quelle classi che non avevano nessun diritto. Oggi probabilmente ci danno ancora il diritto al voto, ma è semplicemente la recita della commedia della democrazia, perché di fatto oggi c'è un largo strato di questa società che diritti non ne ha, perché vive ai margini di questa società e viene totalmente espulsa da quelle che sono necessariamente la vita regolare all'interno di una città e di una del vivere quotidiano. Quindi io credo che noi dobbiamo ragionare di come rompere l'emergenza sicurezza e rompere quella forma di governabilità della tolleranza zero. Guardate, ci è arrivata gli Stati Uniti d'America, che è stata il precursore della tolleranza zero. Cioè oggi ci sono ricerche e studi negli Stati Uniti che dicono che quella che è stata la ricetta di Rudolph Giuliani, sindaco di New York, negli anni 90 nel proporre la tolleranza zero, oggi non è più proponibile perché ha costi insostenibili. Allora, ecco, noi su questo dobbiamo costruire un nuovo blocco sociale, perché su questo noi possiamo fare presa. Possiamo tornare a incidere all'interno di una società profondamente frammentata e precarizzata, perché altrimenti non possiamo, io credo che non abbiamo le forze materiali oggi per attaccare quella narrazione tossica che viene propugnata da Salvini da un lato e da d'altro lato di una serie di giustizialisti in nome della legalità. Perché io penso che quando Salvini oggi dice che la pacchia è finita, che bisogna marcire in galera, e chiaramente lo dice anche in chiaro contrasto con quelle che sono le norme costituzionali, con una cultura del diritto in questo paese costruita da Beccaria in poi, lo dice perché chiaramente sa che oggi è dentro la possibilità di una costruzione di un regime reazionario di massa. Ed è anche su questo noi dobbiamo avere la forza di cominciare a dire le cose come stanno. Perché quando, ad esempio, penso, ancora oggi qualcuno parla di decreto Salvini sull'immigrazione e sicurezza. Non è più il decreto Salvini sull'immigrazione e sicurezza, quella è una legge. È una legge votata dal Parlamento italiano, votata dalla maggioranza del Parlamento italiano. E quella legge ha anche una maggioranza d'opinione in questo paese qua. È nulla a dire. Ecco perché io penso che dobbiamo fare i conti oggi con una nuova fase, che è quella fase di un regime reazionario di massa in cui viviamo. E questo è stato costruito anche a fronte dei tanti episodi terrificanti che sono successi in questi anni e soprattutto negli ultimi mesi. In questi anni non si è mai parlato correttamente, onestamente, di quello che ad esempio sono le lotte territoriali in questo paese e che cosa sono di fatto le grandi opere, che cosa hanno prodotto le grandi opere in questo paese qua. Penso ad esempio, solo perché cioè, due lotte emblematiche come la lotta al TAV o al TAP in Salento. Quando si è parlato di queste lotte qui, si è parlato solo per criminalizzarle, senza mai dire che cosa sono, che cosa possono rappresentare, che cosa producono. E quindi o pensiamo a fronte di quello che è la solidarietà, perché noi oggi dobbiamo fare anche i conti che la solidarietà non è più semplicemente criminalizzata, ma di fatto la solidarietà in base alle leggi e quindi in base alla legalità oggi è reato. E questo non è solo stato possibile perché abbiamo oggi come ministro degli interni un fascista, xenofobo, razzista, un pezzo di merda come Salvini, ma perché riflettiamo, l'estate del 2017 noi abbiamo avuto l'attuale vice premier del Consiglio Di Maio che parlava tranquillamente di taxi del bar, criminalizzando tutto quello che era l'attività del 2017 era Minniti, 2018 sì, no. Minniti era colui che ha prodotto una legge, cioè la legge Minniti Orlando non è altro che dentro quella dinamica, ma dicevo chi ha prodotto una dinamica culturale dentro questo paese facendo passare che le ONG erano i taxi del mare è stato Di Maio. Quindi noi dobbiamo chiederci come costruire un'opposizione a questo regime reazionario di massa, un regime reazionario che è un regime anche proto-mussoliniano, basta, cioè dico questo pensando a vedere quell'imbecille di Salvini ogni giorno con una divisa diversa in TV e nelle varie conferenze stampa, e di come costruiamo un movimento che sappia mettere in discussione il panpenalismo dominante oggi nel paese. E quindi io penso che dobbiamo cominciare a dire le cose come stanno. Io penso che non è più possibile continuare a dire che gli italiani sono brava gente, perché non lo è. Cioè, perché di fatto oggi io credo che siamo una minoranza, ma non dobbiamo essere minoritari. E gli italiani non sono brava gente, perché sono quelli che oggi, se facciamo un sondaggio tranquillamente per strada e chiediamo se dagli immigrati o chi fa le lotte, chi occupa le case, sia qualcosa di lecito, ti vengono a dire che non è lecito, che dobbiamo essere tutti quanti chi è sbattuto in galera e chi ributtati in mare. E allora ecco perché credo che è necessario invece costruire dentro la vertenzialità e dentro il conflitto gli elementi che ci possono spingere in avanti. E spingere in avanti credo che oggi, partendo da chi quotidianamente si sporca le mani dentro al conflitto, mette in discussione questo sistema dominante e nelle pratiche costruisce anche elementi in avanti, di mettere in discussione quelli che sono gli elementi dell'antipenalità. Si poneva in essere l'elemento dell'amnistia. Io sono profondamente convinto. Chiaramente l'amnistia può essere un risultato, soprattutto quando ci sono le lotte. Lo ricordava Valerio. Le lotte a seguire l'autunno caldo ha prodotto l'amnistia del 72, una grande evasione di massa dei compagni e delle compagne che erano colpiti di provvedimenti penali per lotte sociali. Dopo quell'amnistia del 71 non ci sono state più amnistie che hanno riguardato i reati politici e sociali in questo paese. Beh, io credo che sia arrivato il momento di riproporla, sapendo bene che oggi il clima è totalmente ostile, sia sul piano parlamentare sia sul piano sociale. Ma è doveroso riproporre all'attenzione questo, perché è un tema che ti permette di tentare di scardinare quella narrazione dominante che oggi ci vuole la penalità, la galera, la legalità al punto centrale della discussione, non solo della discussione politica, ma delle decisioni politiche. Penso che la vicenda di rimettere in discussione la penalità deve portarci a ragionare di come costruire un diritto penale minimo che pone in essere la depenalizzazione di una serie di reati politici, di reati sociali in questo paese. La legge Minniti, ad esempio, rimette in essere, lo ricordava sia Valerio che Nicoletta, il reato penale per i blocchi stradali. Chiaramente è qualcosa che va a colpire oggi chi tenta dalla logistica, ma non solo, qualsiasi lotta sociale. Cioè il blocco stradale è una delle normali forme di lotta messe in campo in questi anni da qualsiasi movimento, dalla storicità del movimento operaio in poi. Insomma, i blocchi stradali, i picchetti sono state le forme naturali di lotta. Oggi diventa un reato penale e chi lo organizza, il reato viene raddoppiato, così come per le occupazioni di casa. Bene, allora io penso che su queste cose qui, se noi non attacchiamo, rimettendo il conflitto, rimettendo una discussione nel nostro paese di come la penalità costa, non è semplicemente una norma di legge che vai a mettere sul nostro paese, perché costa i sistemi di penalità, dicevo prima, dalla via di sorveglianza, dai sistemi delle reclusioni per migranti, il modello di gestione delle carceri che tende sempre più a recludere e non a usare misure alternative. Cioè tutto quanto questo costa. E allora su questo noi oggi credo che abbiamo il dovere e la forza anche di mettere il paese non solo in dibattito, ma probabilmente un movimento che finalmente, dopo anni e anni di politiche giustizialiste, di politiche penali, di politiche di rincorsa alla cultura della legalità, sappia mettere in campo invece un'idea non solo che scardina questo, ma anche un'idea che sappia ragionare invece di legalità e illegalità, di che cosa è giusto e di cosa è ingiusto. E probabilmente possiamo parlare concretamente nel dire che il bisogno della casa, se non ci sono politiche di welfare adatto, è ingiusto occupare. Perché se non ci sono politiche di welfare che tu mi rispondi sull'esigenza di avere il necessario bisogno di vivere, bene, probabilmente io sono costretto a agire contro la legalità esistente, perché di fatto le lotte poi in questi anni, e soprattutto quando le lotte si facevano per vincere, ci hanno dimostrato che per costruire una legalità futura bisogna infrangere la legalità presente. Buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito. Mi chiamo Luisa Sbrazza e sono un ricercatore dell'Università di Bologna, ma anche un membro dell'Associazione Antigone. Fortunatamente, almeno per questa sera, non parlerò di carcere, qualcuno l'ha già fatto al posto mio, sono un po' stufo. Mi è stato invece chiesto un intervento di sintesi critica a proposito del cosiddetto decreto Salvini. È stato giustamente osservato che si tratta, non è più il decreto Salvini, si tratta di una legge dello Stato promossa, approvata a livello parlamentare, naturalmente, con però un preciso riferimento a una specifica alleanza di governo, che è quella attuale e che presenta effettivamente dei tratti inediti nella storia politica di questo paese. Tuttavia io ritengo che il fatto che si insista paradossalmente a definirlo decreto Salvini in realtà abbia un senso, e il senso secondo me è il seguente: cioè, noi ci stiamo muovendo dentro una cornice che è quella ormai ampiamente analizzata a livello scientifico, politologico, del populismo. Il populismo, da un punto di vista generale, ha bisogno di un requisito fondamentale, che è quello della parvenza, si tratta di una parvenza, di una comunicazione diretta, diciamo così, tra leader e popolo. Il leader è personalizzato, deve essere personalizzato e in qualche modo incarnare un sentire comune, una sensibilità comune, no? Se ne fa interprete autentico e risponde attraverso scorciatoie che hanno molto a che fare con il discorso di chi mi ha preceduto. Che cosa significa? Significa che effettivamente nella cornice generale del populismo, quantomeno nei contesti occidentali, io direi sicuramente in quello italiano, non ha più senso una distinzione con una specie di sottoinsieme sul quale noi sociologi della devianza ci siamo arrabattati per lunghi anni, che è il populismo penale. Non c'è distinzione. Il populismo, l'elemento del penale, l'elemento del crimine, diciamo così, è un pilastro del populismo in quanto tale. Il populismo penale si caratterizza, diciamo, per una linea, che è una linea cognitiva e comunicativa, che è fondamentalmente di identificazione dei nemici interni. Da questo punto di vista è una sorta di surrogato della logica di guerra, no? In tempi di pace virtuale il nemico va ricercato, costruito, riprodotto all'interno, e va riprodotto come criminale, per cui i processi di criminalizzazione sono assolutamente funzionali a questo tipo di strategia politica e in qualche misura, ritorno su questo concetto, devono esserlo. Per cui il destituire, per esempio, alcune forme di lotta della loro dignità politica, diciamo così, è perfettamente razionale dentro questo schema, che è uno schema reazionario, mi va benissimo come aggettivo. Ora, per lungo tempo, per diversi anni, noi abbiamo ragionato su un elemento oggettivamente fortissimo di polarizzazione di questa linea strategica, che è stato, anche alla luce, diciamo così, dei processi di criminalizzazione in quanto tali, come realizzati, il migrante in Italia. Una figura che ha avuto e ha un grandissimo potere di attrazione, no? Rispetto alla riproduzione di questa narrativa. E ancora in questo decreto sicurezza, diciamo, una gran parte degli osservatori hanno giustamente osservato come tutta una serie di elementi regolativi non penalistici, forse in qualche misura parapenali, diciamo così, in attesa della vera botta, che sarà la spallata sul testo unico all'immigrazione, diciamo così, come diciamo, tutti questi elementi, diciamo così, riposizionassero al centro la figura del migrante. Poi, da questo punto di vista, bisogna osservare che il nostro ministro dell'Interno è stato abbondantemente al gioco. Cioè, nella campagna di promozione del decreto, ma se volete anche, si tratta poi di posizioni anche storiche della ex Lega Nord e comunque sue, lui ha concentrato molto il livello, il controllo, la repressione, l'abbandono dello SPRAR, di alcune modalità inclusive peraltro discutibili, cioè ha partecipato, diciamo così, a questa focalizzazione critica specifica intorno alla figura del migrante. Dopodiché effettivamente a un'analisi più approfondita anche del testo sono emerse tutta una serie di misure, peraltro già abbondantemente citate, che invece tendenzialmente vanno a identificare un altro tipo di vecchio fantasma o di vecchio nemico, no? Che è fondamentalmente il dissidente, no? È il militante. È stato detto molto, io aggiungerò solo qualche annotazione tecnica rispetto a ciò che realmente mi preoccupa di più dal punto di vista del dispositivo di cui sto parlando, però vorrei fare una precisazione. L'egemonia del discorso, diciamo così, dell'area del penale, del discorso sulla penalità, della costruzione del nemico come criminale, non coincide, diciamo così, necessariamente con degli effetti di repressione. È difficile immaginare, ad esempio, che il comparto carcerario di questo paese sia in grado di reggere l'urto di una politica repressiva di questo tipo. Stiamo parlando di uno stadio. La penalità italiana, diciamo così, al massimo del suo potenziale, va sui 65.000, è uno stadio pieno. Non si governeranno, diciamo così, gli effetti di lungo periodo della crisi, diciamo così, il dissolversi del welfare, le conflittualità sociali che sperabilmente emergeranno attraverso questo tipo di penalità. Io sono da molto tempo convinto che invece il terreno sia pronto per una forma radicalmente nuova e altrettanto reazionaria di darwinismo sociale più schietto, più puro, no? Non ci sarà tanto bisogno, non credo, nel grande piano carceri, detto francamente. Questo per alludere anche a un'altra idea che mi circola in testa da un po', cioè noi dobbiamo prestare attenzione a non considerare i dispositivi che ci vengono proposti in sede di governo oppure dal legislatore per una loro linearità linearità repressiva dal punto di vista degli effetti. Allora, dico questo perché il dispositivo, diciamo, qualunque tipo di innovazione o di ampliamento che insista nel campo della penalità, naturalmente è criminogena. Perché? Perché crea un presupposto, crea il presupposto tecnico fondamentale, ma da sola non basta minimamente, non è questa la storia, non è sufficiente, ci vogliono degli altri elementi. Il primo di questi è una operatività delle agenzie del controllo che si realizzi sul territorio e che deve essere, a mio giudizio, correlata a delle linee strategiche di politica criminale. Queste non si deducono automaticamente dalla tigre di carta di Salvini che urla e che parla di repressione e che ti mostra il decreto. Queste si realizzano nell'operatività. Per questo motivo i numeri citati sono comunque significativi. Il terzo livello, sul quale noi possiamo, secondo me, fare un ragionamento compiuto in termini di criminalizzazione, è propriamente quello delle rappresentazioni sociali. E qui, diciamo così, siamo di fronte a interpreti della fase populista molto abili, dotati di strumenti discorsivi, abilità comunicative, apparati di rinforzo. Vi segnalo, bisogna fare attenzione da questo punto di vista, che una volta noi si ragionava, per esempio, nell'arco delle forze politiche, così, della rappresentanza democratica, di costi delle campagne elettorali. Guardate che il paradigma cambia completamente. Cioè, se uno ha centinaia di migliaia di followers, ogni volta che scorreggia i soldi li prende, non li sta uscendo. Avete presente, no, come funziona? Cioè, quindi, diciamo così, il livello incrementale, innalzare la tensione, stare sul pezzo di una narrativa del consenso non costa, fa guadagnare, ed è del tutto evidente che la polarizzazione che viene permessa attraverso il crimine, il criminale, il nemico interno, da questo punto di vista è anche un fattore diretto di valorizzazione, no? E allora, rispetto a questo complesso, diciamo così, è del tutto evidente che uno dei terreni per aggredire, effettivamente io condivido con chi mi ha preceduto l'idea che questo sia effettivamente un terreno strategico, quantomeno di lotta culturale. Però bisogna realmente ragionare su come farlo sul livello delle rappresentazioni, perché secondo me in questa fase il livello delle rappresentazioni è il livello cruciale prima che si dispieghino veramente, che si possa dispiegare veramente. Io penso che non sia ancora successo il potenziale, diciamo così, repressivo di questi dispositivi. Quindi poi avevo qualche traccia, diciamo così, ma è venerdì sera, sono state già messe molte cose in luce. Io mi ero costruito tutto un discorso sugli elementi di discontinuità e continuità, diciamo, per limitarci al passato recente tra Minniti e Salvini, insomma, cose che sono state abbondantemente anticipate anche nei contenuti specifici, no? Appunto, il DASP urbano, adesso, no? L'accattonaggio molesto, ma anche un po' truffaldino, ma voi ve li ricordate gli assessori di Firenze, vuol dire sindaci bianchi, blu, verdi, rossi, tutti, diciamo così, cioè, questa, diciamo così, è un'operazione di rendita che è basata su una narrativa ormai di lungo periodo, possiamo addirittura dire di lungo periodo. Certo, no? Poi ci sono degli elementi abbastanza dirompenti, no? Alcuni sono stati citati con tutta evidenza, no? L'accattonaggio molesto è difficile da digerire, però con tutta evidenza, no? I due focus di spostamento parziale dell'asse del nemico sono il blocco stradale e le occupazioni. Vi segnalo un paio di aspetti su questo al quale prestare anche magari un po' di attenzione dal punto di vista della militanza. Sulle occupazioni c'è un dispositivo interessante di ampliamento di possibilità di utilizzo delle intercettazioni e delle intercettazioni ambientali con riferimento specifico ai luoghi dove le occupazioni avvengono. Intercettazioni ambientali, qui la compagna diceva prima, attenzione, perché in questa dinamica che leggiamo in termini repressivi tradizionali c'è l'accumulazione di sapere da parte del potere, diciamo così, è passato molto sotto traccia o abbastanza sotto traccia questo aspetto del decreto poi legge, che in realtà offre, diciamo così, uno strumento molto potente nella misura in cui si assume che l'occupazione corrisponda a un reato di tipo associativo, no? perché poi te lo contestano in questi termini. Quindi questo è un elemento da tenere presente. Io ho trovato anche parecchio inquietante l'ipotesi della condivisione non solo del taser, no? Questo strumento di deterrenza e di così, gestione delle conflittualità magari più estemporanee, ma soprattutto la possibilità da parte delle polizie locali di condividere la banca dati delle forze dell'ordine a livello nazionale. Questa cosa qua significa che, per esempio, su quel livello di controllo si attiva un meccanismo piuttosto vischioso e opaco, per cui il referente in quel caso a noi ci può essere andata più o meno bene a seconda del comune di residenza, che però è un referente politico eletto, no? Per cui c'è un elemento di cortocircuito e una forma di controllo, diciamo così, che può diventare seriamente più pervasiva. Beh, devo dire, non so se questo intervento ha avuto un senso, non so se in qualche misura possa aprire o contribuire ad aprire lo scenario di una forma resistenziale o di lotta intorno alle tematiche della penalità. L'impressione è che si tratti in prima battuta, e il quadro non è molto rassicurante, di partire dal presupposto che attuati o meno, inseriti in un quadro di politica criminale organico o per il momento meno organico, diciamo così, la composizione di questi dispositivi e diciamo così, il livello di consenso diffuso intorno a questa prospettiva giustamente definita come reazionaria, evidenziano piuttosto un quadro nel quale noi ci troviamo in una profonda crisi argomentativa e in una profonda crisi di rilancio su un immaginario. Ho apprezzato alcune proposte che sono venute, ripeto, da chi mi ha preceduto, bisogna seriamente considerare che la controparte è in una fase di avanzamento culturale molto spiccato. Vabbè, prima di Oreste, quindi per forza anche lanciando qualche ponte e considerando la moltissima carta al fuoco messa finora, io proverei, diciamo, a aggredire un punto che mi pare si stagli abbastanza nettamente dopo le cose dette, e cioè il rischio, tanto per stare sulle conclusioni di chi mi ha preceduto, di interiorizzare una sorta di non contendibilità, diciamo, di questo dispiegamento di dispositivi sulla cui natura poi sarà anche opportuno tornare. E, io credo che dobbiamo, diciamo, nel momento in cui si parla di movimento contro la deriva dello Stato penale, che è un po' il tema che abbiamo cercato di mettere in circolazione a partire da un'assemblea occasionata, diciamo, da un ultimo provvedimento di condanna rispetto a una figura esemplare in qualche maniera sulla piazza romana di un patrimonio di lotte di movimento negli ultimi decenni, a partire da quell'assemblea siamo riusciti a concatenare, che è un po' l'indice della gravità della situazione evidentemente e dell'inizio di consapevolezza della gravità della situazione, forse un po' in ritardo, siamo riusciti a concatenare una serie di attenzioni che ci hanno portato all'assemblea del 22 al Cinema Palazzo e riscontrando per la prima volta in quella tappa, partecipava anche Valerio, un'occasione di confronto effettivamente nazionale, complessivo, non solo tra giuristi e non solo tra esperienze di lotta, ma nell'intreccio, diciamo, tra queste due tipologie, tra una concatenazione di discorso critico o il tentativo di costruire un discorso critico di contrattacco rispetto alla deriva dello Stato penale e le esperienze che subiscono i dispositivi repressivi. Il punto che rimane, diciamo, da chiarire è esattamente questo, cioè quanto è contendibile, cioè, ha un senso operativo, efficace, pratico parlare adesso di costruire non solo l'attenzione, ma una messa in movimento, una contesa politica rispetto ai dispositivi, oppure non c'è partita? Allora, il punto è esattamente nella natura dei dispositivi. E io credo che una serie di cose dette vanno recuperate in premessa. Noi ovviamente parliamo a partire dall'impatto di questi dispositivi sulle esperienze collettive organizzate di lotta. Chi ha aperto la discussione, come Nicoletta, diciamo, ha portato non per caso l'esperienza della lotta più vincente, più impattante e più vincente, concretamente vincente, no? A parte quei 7 km di tunnel, quest'opera non c'è né in Val di Susa, né tantomeno oltre frontiera, né tantomeno sul suo presupposto, no? Enunciato, che era il progetto del corridoio Kiev-Lisbona, ormai archiviato nell'archeologia, diciamo, delle fantasie tecnocratico-liberiste sullo sviluppo europeo. E questo è già, diciamo, un faro piuttosto illuminante. per 15 anni una prima zona di eccezione di applicazione dei dispositivi repressivi e di illegalizzazione delle lotte è stata sperimentata sul terreno della lotta che ha fatto più male. Cioè non siamo di fronte a un processo di, come è stato detto, di destituzione delle lotte, ma di destituzione della legittimità, o meglio di tentativo di destituzione della potenzialità, dello sviluppo attuale della potenza di certe lotte e di un certo grado di conflittualità, risalendo a i dati macroscopici che sono stati enunciati fino adesso. Quando si dice che il processo di carcerazione di massa, per dati statistici, investe innanzitutto i corpi migranti, si dice qualche cosa che ha a che fare con un dato di cronaca di oggi. Oggi in Grecia, per un'iniziativa di strutture apparentemente deboli nel contesto del discorso pubblico europeo, no? Un contesto che arriva a criminalizzare persino l'imbarcazione dell'ONG nei salvataggi e quindi diciamo a margine comunque dell'ingiunzione delle caratteristiche di blindatura della frontiera, associazioni ulteriormente marginali rispetto a questo discorso, passate non solo da Salvini, ma la notizia di ieri dal ministro degli interni francese, ex socialista, come complici dei passer degli scafisti, no? Associazioni di solidarietà molto rarefatte apparentemente in questo contesto del discorso pubblico europeo hanno lanciato per oggi in Grecia una marcia insieme alle comunità migranti verso i confini interni dell'Unione. Oggi in Grecia per 24 ore è stata sospesa la circolazione dei treni per questo evento di alcune migliaia di migranti che si sono presentati alle frontiere interne di un avamposto come il nostro dell'Unione Europea rispetto alla circolazione dei migranti. È il sintomo di una forza rispetto a un fenomeno storico o è il sintomo di uno stato di crisi rispetto a questo fenomeno storico? La carcerazione, il ricorso alla carcerazione di massa rispetto ai flussi dei corpi migranti presenti sul territorio è il sintomo di una compiuta razzializzazione delle tensioni sociali e quindi della loro inversione di senso, come quella che si tenta di sperimentare nelle scene spettacolari di Torre Maura, come 3 anni fa di Tor Sapienza, sulla vetrina della capitale nel nostro paese, oppure è lo stesso sintomo della reazione quando si parla di movimenti di processo di movimento reazione di massa, si parla innanzitutto di un processo di reazione, della reazione che per esempio ha incarnato l'elezione ultima dell'ultimo presidente, l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, dopo un triennio di esplosioni di lotte che hanno ridisposto il discorso delle minoranze e il discorso dell'ordinamento sociale in una superpotenza in crisi globale come gli Stati Uniti, rispetto esattamente al punto dei flussi migranti, dei dispositivi di ghettizzazione, dei dispositivi di emarginazione urbana. Trump emerge come ipotesi dell'establishment 2 anni dopo Ferguson. E emerge al termine di un doppio ciclo di presidenza che aveva sostituito alle ipotesi Teocon, no? Di regolazione delle conflittualità globali sulla base di un paradigma di guerra permanente, con la sublimazione della guerra permanente in guerra dei droni. Questa cosa non ha funzionato e, diciamo così, l'establishment, non solo l'establishment, ma i processi di consenso, ovviamente, i processi di polarizzazione della società, di fronte alla conflittualità globale e interna, hanno scelto qualcuno che ripresentasse la candidatura delle potenze brute dello Stato, come diceva qualcuno, come ricorso necessario e utile alla governamentalità, al processo di governamentalità. A che cosa assistiamo in Europa di diverso, nella sostanza? Cioè, se io cito un episodio di oggi sotto il governo Tsipras, che poi è il governo Tsipras Agamenos, e il governo della sinistra greca insieme alla destra nazionalista, sovranista, conciliante, che ha consentito quel governo e che casualmente governa due di castelli chiave, difesa e interne. Se cito Castaner e il ministro degli interni della governamentalità macroniana, cito la Startup Nation, no? Come ipotesi, qualcuno ha detto il renzismo riuscito, bisogna vedere, insomma, considerando 5 mesi di conflittualità esplosa in Francia, forse non tanto, insomma, è l'ultimo triennio, però insomma, diciamo sicuramente un renzismo più tempistico, no? Grazie anche alle leggi e al meccanismo politico della Quinta Repubblica in Francia. Però è un ex ministro socialista di una delle due grandi potenze coloniali storiche di questo pianeta, che affronta il problema dei migranti con la stessa logica con cui due anni fa affrontava il ministro degli interni, ex segretario della FIGC calabrese, ex braccio destro di D'Alema, ex Beniamino Di Cossiga, che ha per primo in concomitanza con l'enunciazione di Di Maio disposto gli elementi legislativi e normativi per quella politica di spot, no? Che è un po', diciamo, stata la politica pilota della politica di spot salviniana a proposito delle ONG e dei salvataggi in mare, la chiusura dei porti, ricordate l'estate del 2017, siamo arrivati in questa condizione alla successione politica in Italia. Ma questi elementi sono chiaramente, diciamo, nelle configurazioni del centro-sinistra della governamentalità europea, diciamo, dell'ipotesi di stabilizzazione, sono ipotesi ogni volta candidate come preventive della tracimazione dei consensi a destra, no? Quindi cosa si fa per prevenire la tracimazione dei consensi a destra? Si fa la destra. Una ricetta talmente riuscita che infatti ci troviamo con Salvini, che è in grado di staccare o meno la spina al governo di chi l'ha portato al governo. Questi elementi sono elementi che ci portano a un giudizio di, appunto, stabilità del quadro e di, su questo sono molto in sintonia con le ultime considerazioni, e di organicità dei dispositivi che abbiamo descritto fino adesso. Da un certo punto di vista questi dispositivi sono organici, è una cosa che in battuta dicevo prima a Oreste, che ho meditato in queste settimane, che insomma i nostri grandi fari sulle dottrine della società di controllo, sulla prefigurazione dei dispositivi della società di controllo, prevedevano negli anni 70 che questi dispositivi si sarebbero configurati in successione agli strumenti disciplinari. Invece quello a cui assistiamo è che, analogamente, come direbbe qualcheduno, diciamo in maniera platonica, accanto, cioè paradigmaticamente, rispetto alla crescita dei dispositivi di controllo che sono nella naturalità capitalistica dello sviluppo economico, no? Delle sue, lo vediamo, insomma, primi dispositivi di controllo sono la pervasività, il panottico delle reti sociali, il panottico della messa al lavoro della cooperazione linguistica, dei discorsi, delle relazioni. La cosiddetta economia dei big data è di per sé, diciamo, la economicizzazione della società di controllo. La società di controllo è ormai diventata strutturale. In Cina attualmente semplicemente ai distributori di bibite c'è cioè il riconoscimento facciale. Se io stamattina, se avessi diciamo, un lavoro stabile, non fossi andato al lavoro, il mio Google Assistant mi avrebbe chiesto, come penso sia capitato a chiunque ce l'abbia installato su un qualsiasi dispositivo, perché non vai al lavoro. Quindi, diciamo, questa pervasività dei dispositivi di controllo è assodata ed è operante. È operante come modo di produzione. Perché nel momento in cui è addirittura operante come modo di produzione la società di controllo tornano a crescere i dispositivi disciplinari? Perché qualcosa non funziona nel controllo, qualcosa non funziona nella previsione del controllo, non funziona rispetto a quello che un tempo si definiva sviluppo ineguale, che in realtà è qualche cos'altro, e al fenomeno storico, le migrazioni che non sono semplicemente il principio di una raccolta di consensi di qualcuno sul terreno politico elettorale, sono un problema del privilegio e quindi dell'ordinamento delle relazioni e dei rapporti globali sul piano sociale. E quel fenomeno è un fenomeno di rottura di questo ordinamento. È un fenomeno di tensione permanente di questo ordinamento e questo fenomeno non è riducibile. E di fronte all'irriducibilità del fenomeno il controllo non basta. Perché il migrante può avere il telefonino da Lagos, attraversarci il deserto nell'arco di un biennio, permanere sempre controllato dal suo dispositivo dentro la tratta dei migranti nel deserto libico, attraversare il Mediterraneo o tentare di attraversare il Mediterraneo sempre seguito dal suo dispositivo di controllo, ma questa cosa non basta a renderlo immobile e dunque servono dispositivi di disciplina. Questo non è il segno di un ordinamento organico sul piano degli effetti. Effettivamente è così. Scusate il gioco di parole. Effettivamente questi dispositivi nella loro effettualità sono del tutto impregiudicabili. E anzi, diciamo, guardati dentro una statistica storica nel breve periodo, la loro operatività è molto relativa. È come il muro di Trump. Il muro di Trump è una grande iniziativa spot, un'iniziativa che sul piano della disposizione del discorso e quindi dell'enunciazione e dell'ingiunzione alla società ha un fortissimo valore, un fortissimo impatto, sul piano dell'operatività è ancora del tutto impregiudicabile, anche perché il muro a confine texano, a confine meridionale degli Stati Uniti d'America esiste da molto prima. Operante da molto prima e ciò nonostante non ha interrotto il problema, non ha disattivato il problema. Il problema di chi muove questi dispositivi sul terreno della disattivazione è l'inverso, e cioè quanto sia attivabile un potere sovrano in questo momento. Da questo punto di vista, diciamo, si apre una finestra di riflessione che noi dovremmo approfondire politicamente sul significato della fortuna del sovranismo, proprio quando le strutture della sovranità sono poste in tensione storicamente, quando un G8 per la prima volta deve convocare delle potenze extrastatuali, ma di fatto statuali, e sul piano dell'ordinamento giuridico, della legittimità, pari se non superiori alle leggi degli stati, a un tavolo per discutere esattamente di quale sia la platea sovrana di decisione sui dispositivi di controllo che quelle potenze detengono. Stiamo parlando di Facebook, di Google, che sono stati convocati effettivamente a un tavolo dei grandi per la prima volta. Cioè, per la prima volta la forma dello Stato ha dovuto riconoscere qualche altra forma come elemento di messa in critica pratica della propria sovranità. Sugli elementi più avanzati di messa al lavoro della società, cioè qualcosa che nel regime capitalistico è esattamente il terreno di esercizio della sovranità o perlomeno la sua legittimazione a fronte del modo di produzione. Questa cosa che noi abbiamo sotto gli occhi e che potrebbe essere tranquillamente, diciamo, rianalizzata per esempio rispetto al capitalismo di predazione, al capitalismo estrattivo, sul controllo dei territori, no? E a quella continua produzione di resistenze di cui il movimento Notav e la sua pervicace localizzazione in Val di Susa in qualche modo sono la raffigurazione italiana, ma che parla molto oltre i confini. Questa cosa deve in qualche modo illuminare anche un po' l'approccio che noi possiamo avere e discutere rispetto a come affrontiamo sul terreno politico, giuridico e dispositivo. Luigi Ferraioli ci ha fatto l'onore, che è anche quello significativo della gravità della situazione, di partecipare all'assemblea del 22 marzo a Roma e di aprire la discussione, naturalmente non intervenendo sul terreno dei dispositivi, tantomeno su terreni come quello delle misure di prevenzione personale, ma parlando, reduce dal suo articolo saggio sul populismo penale, di un atto decisionale, un atto di decisione politica, come è stato quello delle motivazioni con cui la maggioranza parlamentare attuale in Italia ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Ricciotti. Terreno piuttosto scontato per il discorso costituzionalistico di Ferraioli, un po' meno scontato è che cosa ha detto nel merito Luigi Ferraioli, cioè, e che poi è oggettivo, cioè quella, qual è stata la motivazione? La motivazione è stato un ricorso a una procedura inserita nell'ordinamento legislativo fin dal 1989, in maniera piuttosto significativa, quindi un lungo corso, in cui è stata inserita l'eccezione del riconoscimento dell'interesse nazionale per far luogo nell'operato dei ministri al dettato delle leggi. E quindi, cioè, come argomento per respingere l'autorizzazione a procedere. Questa cosa, appunto, viene dagli ultimi scampoli della Guerra Fredda, o meglio della Prima Repubblica per quanto ci riguarda, ed è stata appellata per la prima volta da questa maggioranza parlamentare in questa occasione. Cosa ha significato rispetto alla specificità del caso Ricciotti? Ha significato, dice Ferraioli, secondo me correttamente, affermare in maniera piuttosto dispotica, nel senso proprio del termine, che si ristabilisce un profilo del potere sovrano nel caso specifico di vita e di morte, cioè lasciare chiusi sulla Ricciotti in molo corpi affetti dal rischio di morte per un congruo tempo, per l'interesse nazionale motivato nei seguenti termini. È interesse nazionale che il potere esecutivo, fondato su una maggioranza parlamentare, cioè legislativa, legittimamente eletta, applichi il programma su cui ha riscosso il consenso elettorale. Il programma su cui ha riscosso il consenso elettorale era la chiusura dei porti. Uno diceva, è banale, mica tanto. Ferraioli giustamente osserva, qui non è in questione, questa è la novità, diciamo, di Ferraioli rispetto alla sua cultura politica e giuridica, non è in questione l'ordinamento costituzionale, è in questione il campo politico-giuridico presupposto all'ordinamento costituzionale, cioè quello che si stabilisce è appunto il profilo di un potere sovrano di vita e di morte esteriore e anteposto alle leggi stesse, su mandato popolare. Perché guardate bene che se noi parliamo di, diciamo, movimento, cioè di processo politico-reazionario, non è mica, diciamo, ragionevole limitarlo alle politiche di Salvini se parliamo dei dispositivi di repressione. Cioè, Minniti ha fatto moltissimo, prima di Minniti altri. Quindi il processo reazionario, nei termini che ho cercato di esplicare prima, è trasversale al campo della governamentalità ed è trasversale sul terreno europeo. Ieri il Consiglio di Stato in Francia ha decapitato, è stato detto, la nuova legge anti-Casser, costruita su misura per l'interdizione, diciamo, di legittimità appunto al movimento di Gilles Jones, ormai al loro quinto mese, in una norma aberrante che prevedeva la schedabilità innanzitutto di tutti coloro che non avessero precedenti penali ma precedenti di segnalazione, o che fossero in rapporto di capillarità con chi avesse precedenti di segnalazione di turbamento dell'ordine pubblico. Il rapporto di capillarità è effettivamente il dialogo fra i dispositivi disciplinari e la società di controllo, cioè dove si misura il rapporto di capillarità? Sul fatto che io metto un like a una pagina che indice una manifestazione non ancora autorizzata e che l'autorità pubblica ha la potestà attraverso la legge di interdire. Dunque, se io metto questo like e poi, diciamo, vengo individuato attraverso un controllo piuttosto capillare, sì, in piazza, che mi approssimo al luogo di questa manifestazione, sono passibile di fermo preventivo. Questo affermava la legge del cosmopolita, democratico, progressista governo macroniano in Francia. Il Consiglio di Stato, formato peraltro tra gli altri da qualcuno che ha al suo tempo approvato l'azione di un comando militare contro una nave di Greenpeace che ha fatto alcuni morti, qualcuno, diciamo, della mia età lo ricorderà, ha detto è troppo anche per noi. Però mentre ha detto troppo anche per noi, avendo fatto un rilievo di non conformità parziale su questo articolo, ha approvato tutti gli altri articoli. Tutti gli altri articoli significano, per esempio, come in Italia sulle persone migranti è applicato un doppio regime di legislazione. E quindi le misure di prevenzione personale per quanto riguarda le persone migranti obbediscono alla priorità nazionale della prevenzione antiterrorismo, che viene fatta equivalere a un principio di razionalizzazione, e dunque sono sottoposte a un doppio regime. E qui, diciamo, torna quella cosa che un po' faceva eco, per me sorprendentemente, nelle osservazioni, nella rilevazione di Ferraioli, cioè che forse una ottava tesi di un tale nel 1940, quando replicava a Carl Schmitt, sto parlando di Walter Benjamin, e delle tesi sulla filosofia della storia, che il punto rispetto alla dottrina dello stato di eccezione, o meglio alla dottrina di formalizzazione dello stato di eccezione, di legittimazione formale dello stato di eccezione, che Carl Schmitt poneva a fondamento della legittimità del sovrano, del potere sovrano, era falsificata dal fatto che dal punto di vista delle classi oppresse in lotta lo stato di eccezione è regola. Questa cosa è osservabile, e non solo è osservabile, ma in qualche modo ormai non è più mascherata. Cioè tutte le caratteristiche costanti delle ipotesi governamentali che sono di fronte ai nostri occhi nel campo politico attualmente, a questa latitudine, quella della democrazia formale, dalla Trump del muro, al Macron della legge antica serra, all'Italia dei decreti Salvini e della legge, dei decreti Minniti e della legge Salvini, all'avamposto greco che vede convivere Tsipras e Kamenos, alla sospensione del traffico ferroviario su un intero paese perché 2000 migranti si presentano a un confine, questa regolarità dello stato di eccezione è ormai esplicitata, cioè il fatto che lo stato di eccezione regoli il rapporto di forza politico e il rapporto di potere è ormai esplicitato. Questa cosa ovviamente ha a che fare con quello che noi abbiamo chiamato crisi del legame democratico, crisi della, del discorso della democrazia politica. Ed è su questo terreno che in qualche maniera noi dovremmo andare nella contesa con i dispositivi, perché questi dispositivi da una parte mostrano le corde della enunciazione di un rapporto democratico del contratto sociale e dall'altra parte impattano sul contratto sociale nei termini che sono prodotti da quelle statistiche, cioè carcerazioni di massa, aumento esponenziale delle misure disciplinari e dunque delle misure punitive, appunto, la deriva allo Stato penale, accanto alla crescita dei dispositivi di controllo, interdizione non solo delle forme, noi su questo dovremmo, diciamo, secondo me concentrarci, cioè il punto è che per difendere le lotte organizzate bisogna capire che le lotte organizzate subiscono dei colpi repressivi, a parte quelli, diciamo, vincenti sul campo, ma in generale per lo stato dell'arte delle nostre lotte, non per quello che sono, ma per quello che possono essere al di fuori di sé, cioè per come sono in rapporto con quegli elementi di tensione e di contraddizione dell'ordinamento sociale che sono il problema della governamentalità. A noi arriva il DASPO partendo dagli stadi, passando per il DASPO urbano e finendo applicato sui militanti. Allora noi dovremmo, nell'approcciare, diciamo, la costruzione di un movimento antipenale, capire che siamo davvero gli ultimi della fila e che il problema sono gli elementi macroscopici di impatto sociale delle misure disciplinari e delle misure penali. Cioè che la deriva allo Stato penale innanzitutto interessa a quelli con cui non parliamo più e che parlare dei dispositivi di repressione e dei dispositivi di emarginazione, di illegittimazione, di illegalizzazione, di carcerazione di massa è una chiave per tornare a parlare con elementi del corpo sociale. Dagli stadi al tessuto metropolitano, ai flussi delle forme di vita del precariato giovane che sono sottoposti, diciamo, per primi e complessivamente a quello stigma che deriva dall'ideologia del decoro, che è un'ideologia impaurita, non è un'ideologia vincente. L'ideologia della messa in sicurezza dei centri urbani è un'ideologia che immediatamente esplicita la paura del gestore, di chi governa il processo di valorizzazione economica rispetto agli elementi di tensione sociale, al fatto che questi elementi di tensione sociale non appartengono nemmeno all'articolazione di un conflitto politico o di un'organizzazione sociale del conflitto, ma alle forme di vita che non sono riducibili a quel processo di valorizzazione, non sono immediatamente riducibili e dunque occorre inserire, nemmeno attraverso gli strumenti del controllo, per quanto tu possa educare intere generazioni a passare il tempo a farsi selfie, il problema per te resterà che si facciano selfie in una loro libertà di comportamento dentro un posto in cui non è tollerabile per la bilancia dei profitti e degli utili, che loro lo facciano lì e lo facciano nelle forme che scelgono e che non obbediscano agli standard che invece rispondono al processo di valorizzazione. Che tu lo faccia come selvaggio della periferia in un posto che deve essere consacrato alla gentrificazione oppure alla asettica valorizzazione di una vetrina. O che tu lo faccia accanto a Salvini prendendolo per il culo. O che tu lo faccia accanto a Salvini prendendolo per il culo. Cioè, non basta da solo il dispositivo di controllo. E dunque serve il mezzo disciplinare, lo strumento disciplinare. Questa cosa che è osservabile quotidianamente da migliaia di persone che subiscono gli effetti dell'applicazione di questa risposta, secondo me ci dà la bussola di come noi dovremmo condurre il discorso della costruzione di un movimento antipenale. Non è la stessa cosa dell'assalto al cielo arrivato, diciamo, al cuore dei rapporti sociali con il rifiuto del lavoro, il rifiuto, diciamo, di ogni dispositivo disciplinare sul terreno sociale al termine del lungo 68 italiano e che è stato punito e come dire, disciplinato per l'appunto con il 7 aprile di 40 anni fa. Però siamo a un punto che appunto non per ciò che siamo, non per ciò che rappresentiamo politicamente, ma per ciò che rappresenta politicamente in sé il problema del potere oggi, è un punto non concluso, è un punto su cui noi possiamo dare battaglia, purché usciamo dai confini di questo noi, purché rimettiamo questo noi in rapporto. Alcune culture ecopolitiche dietro alla ferita sociale, alle ferite sociali di cui siamo appunto l'epigono. Io direi, rispetto a, appunto, insisto, i corpi sociali con cui abbiamo difficoltà in realtà di relazione e di rappresentanza, tra virgolette, evidente, ma che ci sono affini oggettivamente. Non solo ci sono affini, ma ci sono maestri per come subiscono in termini di oppressione l'applicazione di questi dispositivi e per come esprimono a monte di questi dispositivi quegli elementi di resistenza e di tensione e di contraddizione a cui questi dispositivi rispondono. O noi ricominciamo da qui, o una difesa della legittimità delle lotte come campo politico strettamente inteso, quella sì è incontendibile, quella è così intesa una battaglia, come dire, di testimonianza che non reggeremo. Ed è per questo che non si tratta semplicemente di far dialogare le lotte, cosa che cerchiamo di fare, ma di produrre degli strumenti condivisi che vadano al di fuori del campo militante. Noi le cose che stiamo discutendo sono non solo la cooperazione, la rimessa in cooperazione, il soccorso rosso 2.0 tra le difese legali delle lotte, ma il fatto che questa cooperazione produca gli elementi di documentazione degli effetti repressivi di applicazione dei dispositivi, che lo faccia non solo sui corpi militanti, ma su quei corpi maggioritari che subiscono questi dispositivi, i corpi migranti, i corpi del precariato giovanile, i corpi posti al margine delle operazioni di decoro urbano, che questi compagni legali seguono perché sono compagni oltre che legali e, stando nel terreno giuridico, sanno che questa è la materia. Quello che ci serve è un supporto, e l'abbiamo, quello che ci siamo detti il 22, è un supporto legale, lo diceva Gianluca Vitale per il Legal Team, è un supporto legale che metta a disposizione le competenze per tentare di disattivare sul terreno giuridico stesso i dispositivi di repressione, non solo per gli elementi militanti, ma dalle tifoserie a chi si ribella nei CPR, a chi in questo momento sta minorenne sequestrato in un carcere di Malta, sequestrato in un carcere di Malta, dopo che un tribunale ha già deciso, acclarato che non c'è stato ammutinamento e sequestro né pirateria su quella nave, ma semplicemente perché, come viene applicato rispetto alla, all'attuale nave dell'ONG con 64 persone al bordo, a Malta come in Italia quello turba il buon ordine dell'amministrazione dello Stato. È interessante questa enunciazione, cioè è difficile tenere quest'ordine, ok? Allora, noi su questo, a questo dobbiamo rivolgerci, gli strumenti condivisi che stiamo cercando di rimettere come problema in circolazione e di ricominciare a operare, sono strumenti che devono essere rivolti ai movimenti, ma ai movimenti in una proiezione, almeno spieghiamo noi, almeno ce lo spieghiamo noi, che torni a metterli in rapporto con i corpi sociali, la densità sociale del problema, che prescinde dai movimenti, a cui i movimenti in qualche modo possono riproporsi come struttura di servizio se vanno su questo terreno. Perché tutti, tutte le solitudini delle resistenze sociali, delle, degli elementi di contraddizione sociale hanno bisogno di un discorso alternativo rispetto alla deriva allo Stato penale. E questo discorso alternativo in realtà ha degli elementi di efficacia piuttosto evidenti, e cioè l'insostenibilità di un panottico legale penale, di una carcerazione di massa effettiva. E su questo noi, secondo me, non lo possiamo vedere sul breve periodo, ma sul medio periodo possiamo intravedere un elemento di salto di qualità di cultura politica e anche di salto di qualità dell'organizzazione del conflitto. Abitudine di parlare in piedi perché allora, mi allora vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, vorrei premettere questo, che se vi sembra a un certo momento io dica delle cose un po' sconclusionate, non mi offendo se me lo segnalate. E soprattutto può essere, perché sono tali gli elementi che riuscire a costruire un discorso, come dire, come il fo, almeno io non me ne sento capace, perché risuonano le cose e quindi finisco sempre, ci avevo un sacco di fogli, li lascio lì, perché finisci sempre dall'ultima parola che hai sentito, che ti fa esplodere nella testa riflessioni, emozioni, cose eccetera. Quindi dico, siccome è un discorso molto rapsodico, se no dovrei parlare delle ore, quando decidete di interrompermi, fatelo pure. Partiamo, devo dire, stasera mi sembra, non per fare per un momento una cosa per bene, che in tutti gli interventi ci siano stati elementi da Valerio, che ha cominciato, fino adesso a Danubi, delle pepite proprio di elementi analitici, di elementi e non della solita canzone che ripetiamo come nei volantini, quasi per farci piacere a noi stessi, degli elementi, alcune cose che diceva Italo, eccetera. Io però vorrei partire da questa cosa che a un certo momento ha come mormorato Anubi, dicendo, ma cioè partita, e partita è dire poco, perché potremmo dire guerra, o non c'è, e quello resta un po' il problema, perché vedete, dico una cosa un po' provocatoria, e quell'ottima persona che è Luigi Ferraioli ci dice qui a Rubi stasera che ha fatto un salto di comprensione ed è venuto ad avere questo sospetto forte sulla natura che i processi in corso stanno prendendo. Tutto questo è interessante, ma se resta un problema della biografia intellettuale, dei libri, degli altri libri di Luigi Ferraioli, è un po' sprecare un'occasione. E quindi contano tante cose, contano i termini, eccetera, ma vorrei dire questo. Può sembrare all'inizio, ma vi assicuro, non è così, e se qualcuno aspetta che finisco vedrà che è tutto meno che un discorso che la butta sul filosofico o sulla psicopatologia, eccetera. Io credo che bisognerebbe dire all'inizio due o tre cose. Uno, che dovremmo, per dire dovremmo, dico, mi viene in mente una frase di Pedì quando dice che bisogna proprio allenarsi a pensare anche contro se stessi. Allora, secondo me ci sono dei modi che ci vengono di dire le cose che in realtà dovremmo proprio lavorare ad estirparci. Uno, non credo che la questione sia italiana. Questa tentazione di dire, anche solo perché è un argomento propagandistico, ma là non è così, io non so dov'è che trovate che da questo punto di vista non è vero che tutto il mondo è paese. Da quello che sta succedendo nel Mali, in cui certamente dietro, sotto, non perché ci sia l'uomo bianco che è cattivo, ci sono i francesi che manipolano, e in cui voi vedete, ci sono state storie, Timbuktu, in cui voi vedete un Dogon, che è una civilizzazione straordinaria, che ha convissuto per secoli e per millenni con i Peul, come hanno convissuto arabi ed ebrei da varie parti del mondo, come hanno convissuto a Sarajevo quelli e quegli altri, come hanno convissuto i Tutsi, e beh, e lì poi andare a vedere un mandingo, un Dogon, che apre il ventre di una donna Peul per tirar fuori il feto. Che dici? Che c'è? Sì, Salvini, ma Salvini sta un po' dappertutto, e quindi non c'è un fuori. Ci sono tanti dentro, anche terribili, singolari, diversi, ma un fuori oggi non appare. Dire un dopo, sai, anche nel periodo più fosco del nazismo che arrivava, uno era portato a pensare, ma c'è un fuori e ci sarà un dopo. Oggi non è certo. La questione è di tipo, mette in questione le fibre antropologiche della specie, non quelle storie superstiziose sulla fine del mondo inteso come geocidio, che quello, come direbbe il mio amico Piperno, sai, la radioattività del sole, la terra come terra, se di questa che parliamo, il pianeta terra se ne fotte un po', pure di tutte le cose, i veleni e le cose che gli mettiamo noi, non è la terra, ma pezzi interi del vivente, sì, ma civilizzazioni, paesi e città, cose, sì, ma specie, e la biodiversità, spariscono le specie. La specie umana può sparire. La specie umana, questa un po' che ha per motivi, adesso è inutile rifare questi discorsi, ha inventato il male, perché nell'ecosistema c'era l'atrocità, le cose, ma non era male, la morale, è il nominarlo che lo inventa. Questa specie in qualche modo dannata a dover andare avanti con le protesi della conoscenza e poi lavorare, e questa qui può essere a capolinea. Non è che sta scritto da qualche parte che questo non succede. E quindi dico, è a questa scala che il problema bisogna cominciare a porselo. E delle volte ti viene in mente, sono delle vertigini, ma chissà, saremo già oltre il punto di singolarità? Siamo già circondati dai cyborg, come in certe fantasie distopiche? E non so, io, per me, dico subito, Anubi ha nominato Castaniel, e Castaniel è qualcosa di vertiginoso, come una specie di kitsch di elementi, nel senso del postmoderno in architettura, no? In cui trovi tranquillamente degli elementi puntualmente linguistici, terminologici, nazisti pure, nazisti, colonialisti, imperialisti occidentali, da gulag, trovi un coacervo di queste cose. E devo dire, se io dovessi, noi in questo momento ci abbiamo l'angoscia, no? A Parigi ci sono questi 14 nomi, di cui alcuni sono distanti come cosa, se la caveranno, ma poi ci sono 7-8 di quei compagni e compagne che hanno l'ergastolo, che hanno l'ergastolo per aver combattuto quella guerra sociale negli anni 70 e che stanno appesi a un filo. Beh, che devo dire? Se come in un sogno qualcuno mi dicesse che ha detto un presidente della Repubblica state tranquilli, ma se mi dicessero che ha detto, ma non dico Mitterrand, ma Chirac, ma Sarkozy, potrei dire, boh, in fondo, se mi dicono che l'ha detto Macron, dico, boh, sì, avrà detto questo, ma è come un robot totalmente totalmente anaffettivo, quindi cosa può essere? E avete visto come si comporta uno smartphone? Ti dice una cosa, poi diventa il contrario. Di che su cosa puoi contare? E allora voglio dire, siamo a questi livelli qui. A Ferraioli si potrebbe dire, ma vogliamo strapparci? Questo ve lo dico, compagni, è perché, ma chi, quale Dio ci comanda? Non lo dico per ideologia, non lo dico a continuare ad usare questo termine democrazia. Demos, il popolo, quanti crimini in nome di questo? Crazia, Kratos. Perché, a parte che Ferraioli potrebbe anche dire che siamo in quella che i greci chiamavano oclocrazia, in cui, certo, poi arrivano e ti dicono, ma questo ci sono state atrocità ancora peggiori. E certo che ci sono state. In nome di un Dio che stava nei cieli, in nome, non ti, l'ha fatti che ne so, Tamerlano, quello, l'altro Alessandro Magno, ma c'è qualcosa di inedito. C'è un qualcosa che di oclocratico, che questo viene fatto in nome del popolo, il quale si è espresso davvero così. Allora voglio dire, per avere delle fantasie e buttarle lì, delle volte l'altro giorno mi veniva in mente un'immagine. Ma voi immaginate, quando c'è sempre chi dice che tutto è inedito, è nuovo, e chi dice no, ma si è già visto, compariamo, era ancora peggio lì, era ancora peggio là. Ma può essere. Se vedete il film con Gian Maria Giordano Bruno, quella fine in cui arriva con la mortacchia, il sangue, ma le atrocità ci sono state. Ma le atrocità non le bombardavano a miliardi di persone per miliardi di volte ogni giornata? Questo non può non avere degli effetti devastanti, continui. Vi provate ad immaginare, per fare così, una specie di nazismo in cui ci fosse questa apparenza della trasparenza democratica e fanno un convegno con Hitler e tutti quanti per stabilire se è il caso o no di arrestare, di bloccare la produzione dello Zyklon B, perché pare che sia un po' nociva. Allora tutti dicono, ma certo che bisognerà fermarla. E poi porteranno gli argomenti, ma se la fermiamo noi, arriverà la Cina, che quelli poi la fanno ancora più a buon mercato. Come si fa? Dopo i mercati si incazzano, ci tocca farla, dateci 15 anni prima di poterla ridurre. Non solo, l'estremo argomento quale sarà? Ma avete chiesto agli operai e ai loro sindacati che lavorano a produrre lo Zyklon B? Quelli, che facciamo? Li mettiamo in mezzo a una strada? No, ma sembrano cose. E come l'altro fatto, il sabato mattina. Ah, io dico sempre, non ci capisco. Il sabato mattina andate al supermercato, no? E adesso hanno macchinizzato la cosa, li fate i conti da soli. Intanto consumate quel tipo di merda, no? Poi dicono, cioè, con tutti gli imballaggi così. E poi state là a lavorare. Allora c'è il fatto che tu lavori. Il più precario di tutti è una corvée, quindi sei lavori, proprio fai del lavoro produttivo, però al tempo stesso non è pagato, quindi è come se fosse un semischiavo. Poi togli i posti di lavoro a quegli altri. Poi, insomma, c'è dentro questo semplice fatto, la sua generalizzazione, qualcosa che non si può dire che è già esistita. Non lo si può dire. D'altra parte, forse, la rottura e lo strappo che collochiamo attorno al 1492, con tutto quello che è successo, le caravelle, il fatto che si inventa, il fatto che il mondo è davvero una superficie dunque infinita, perché essendo è come la linea nelle geometrie non euclide, il cerchio è perfetto perché è la realizzazione della retta infinita. Allora, a partire da là, c'è qualcosa che ha introdotto un salto di intensità in cose che esistevano anche prima. Forse potremmo dire il cielo, consentendoci lo grifo che non è qua. Il cielo era sceso dai cieli e comincia a stare sottoterra, la mano invisibile della capitalizzazione. In cielo ci stanno le stelle per conto loro. Quel magnete che muove potenza impersonale, no? E lì, qua, tutto il dibattito antropocene, capitalocene, comincia a non essere più nei cieli in alto, è invisibile perché sta sotto la superficie del globo terracqueo. Meno male che c'è qualche feritoia di vulcano che ogni tanto fa venire fuori dei soli interni ancora più sotto, quelli di cui parla Simone Weil, quelli di cui parla le rivolte, le insurrezioni, quelli di cui parla Rosa. Allora, scusate se sembra che parlo guerra anche un po' contro noi stessi. Dico una cosa, provocando un po', anche me. Io penso che l'impressione dell'altra sera a Torre Maura è un po' totale, ancora oltre quello che era successo. Allora, io voglio dire, e poi ci ritorno alla fine, io credo che dovremmo diventare capaci di due cose che sembrano contraddittorie, ma non è facile. Se qualcuno, non sto facendo un elogio dello spontaneismo o delle pulsioni, però dico, se qualcuno trovandosi a passare, e magari è armato perché faceva il ladro, piglia e ammazza qualcuno di quelli con la mano tesa, se qualcuno piglia e ne spende 10, noi siamo in grado di non biasimarlo? Io penso che non vada biasimato. Al tempo stesso però bisognerebbe avere la forza di non dire fuori compagni dalle galere, dentro i fascisti e le camicie nere. Perché se diciamo che la galera è quello che ha detto Nicoletta, in buona logica dobbiamo avere la forza di stringere i denti e non proporla per nessuno. So che è una aporia. Ma no, li ammazziamo quell'altro. Aspetta, possiamo anche non ammazzarli, vedremo. Io dico, andiamo per passi minimi. Se qualcuno li ammazza, questo non si fa perché la legalità ha stabilito che non si fa, oppure se lo prendono e lo vogliono scorticare in qualche galera, lo difendiamo a viso aperto. E due, se qualcuno continua a dire che reclamiamo che mettano in galera quelli di Casa Pound, siamo in grado di dire che a noi questa cosa ci sembra un circolo vizioso. E sono cose contraddittorie, ma esistono anche in filosofia le aporie. Allora io voglio dire un'altra cosa, salto tanto qui l'ordine logico. Possiamo dire una cosa? Qualcuno che mi conosce da 40 anni credo che trovi, insomma, francamente, cosa può pensare un tipo come me della mostruosità di questi bellimbusti tipo Weinstein, grandi artisti, cose, politici, ormai gran comie, eccetera, che devo dire hanno un comportamento che mio nonno Oreste, che aveva cominciato a lavorare a 5 anni, e mi direbbe: ma questo il più pulito c'ha la rogna. La rogna non è niente. Cioè, a me fa effetto il comportamento di questi qua toccatori di culi di giovani attrici, eccetera. E però siamo in grado di dire che se andiamo appresso a una manifestazione che dice denuncia il tuo porco, questo vuol dire che è meglio che non ci diamo poi il manzone della storia della colonna infame, o Beccaria, o chissà chi, perché stiamo chiedendo quello. Allora, che si può fare? Non c'è una soluzione diretta, potrei raccontare una serie di aneddoti, ma almeno avere la coscienza di questo. E ne dico un'altra che turba ancora di più. Ma secondo voi, sui ragazzini, le manifestazioni con Don Ciotto in testa fanno bene alla salute mentale? Poi ragazzi, questo Don Ciotti, io potrebbero dire che mi sta antipatico perché culo e camicia con Sergio Seggio, ma o camicia e culo, ma non è così, eh? E anche con Caselli, che allora gli andiamo direttamente al culo senza camicia. Culo inteso fisionomicamente, nel senso che ce l'ha in faccia il culo. Gli aneddoti purtroppo mi sento delle volte, ma tu sapevi, se me li mettessi a raccontare farei una cosa, voi ridete fino a domattina, ma c'è da ridere perché ha crepapelle disperatamente. Però io chiedo questo, io devo dire, allora qualcuno mi prenderà per un rompicoglioni, ma perfino questa cosa che ci sono andate le mie pronipotine adolescenti, come gli potevi dire, però se, questa giornata sul mondo, eccetera, con questa Greta, dentro c'è forse una speranza, sì, ma com'è che a nessuno gli viene in mente una parola di, in qualche modo, di compassione per questa Greta? Perché guardate che assestargli sulla testa una responsabilità schiacciante di questo tipo, prendere una ragazzina in più a spergere e incollargli addosso la mazzata di un premio Nobel, di raccontare che lei ha smosso l'intero mondo. Ma Françoise, Lucia, come si chiama? Dolto, la grande psicanalista dell'infanzia, direbbe: ma questo è un crimine, la state passando sotto un carro armato sta ragazza. Allora dico, non voglio dire niente, però c'è anche questo, cioè vogliamo cominciare a porci i problemi andando anche contro le nostre stesse correnti. E non so, spero che Sante non sia andato via, non lo dico per un affetto che ho e che mi è cresciuto nel tempo, però possiamo essere d'accordo su una cosa o sull'altra, ma la cosa che secondo me Sante incarna è quest'idea, adesso faccio proprio un salto, è quest'idea di pensarsi pure a volte contro se stessi. Mi viene in mente quando ritorno, perché ho divagato qui, quando ma ho divagato un minimo, quando Arubi dice c'è partita, un richiamo alla pratica, poi vediamo, perché arrivo a qualche inerzia di proposta, figuratevi un po'. Ma mi ricordo un passo di Sante in cui racconta delle grandi lotte, della prima grande lotta, San Vittore, eccetera, no, contro, e non è che si mette lì a fare come tante volte noi altri, anche rompicazzo, abbiamo fatto in questa storia, per cui c'è subito che ti dice: ma Sante, però se andate là avendo una serie di rivendicazioni, allora vuol dire che in qualche modo convalidate la legittimità dell'esistenza del sistema. Allora la critica talmente purista che quello non potrebbe andare anche con una rivendicazione. Poi c'è quell'altra l'altra critica che dice ma qui volete la luna nel pozzo, c'è un passo di sangue da qualche parte, qui proprio ti dimostra come con queste cose si deve fare, come, come dire, con un martello e un chiodo a prendere un quadro, non andare a delle vertigini per cui alla fine non è possibile niente, perché è sempre infattibile, perché è sottoponibile a una critica della critica critica da qualche parte. Allora volevo segnalare una cosa, credo che il tempo sta finendo, c'è una cosa da osservare in giro. Qualcuno qui ha citato delle date, lo butto lì: amnistia, quella subito dopo il 68, e quella, io figuratevi, potrei raccontarvi degli aneddoti in cui mi sono trovato in mezzo con questi, con gli altri, Toni Nicco, una cravatta presa dal rigatiere, ad andare a discutere con Ferruccio Parri, il quale dice ma non si possono mettere nell'amnistia pure quelli che faranno i blocchi stradali domani, è anticostituzionale, e qualcuno gli dice cambiamo questa costituzione. Ma c'era una gioia nel 68 in cui era tutto diverso, cioè era una cosa fattibile. Una volta che la racconto, ma viene fuori, allora è un'amnistia, è pur sempre un'amnistia, loro l'avranno fatta, i democristiani erano bravissimi, per considerazioni di regolazione sociale, eccetera. Però intanto la gente usciva. Vogliamo capire che le cose vanno così, che non sono come scritte in un libro stampato, nitide, pure, eccetera. Allora, oggi dobbiamo renderci conto che bisogna trovarne qualcuna, se no rimane proprio un flatus vocis. 7 aprile, ve la dico così, se qualcuno pensa che voglio fare delle polemiche, regolare dei conti, ma il 7 aprile è chiaro che è un balzo, è l'opening the night di quella che, devo dire, in un ottimo articolo su critica del diritto, quella di Ferraioli, Negri aveva definito urgenza, vedi, non è che, come forma di governo, cioè qualcosa che va molto oltre, dico così, il buon vecchio stato d'eccezione, santi romano, regolato, che qui c'è il terremoto di Messina, c'è la guerra, c'è quello e quell'altro, allora pro tempore e ad hoc sospendiamo tutta quella serie che poi ne conosciamo la natura, no? Di lacci e lacciuoli tendenti a rilegittimare continuamente il monopolio statale della violenza legittima, eccetera, e si passa invece a reintrodurre l'inquisizione, il rovesciamento dell'onere della prova, i processi di pratica, tutto quanto. Oh, sappiamo che il 7 aprile è questo, non è l'inizio assoluto, c'erano stati dei precedenti di Catalanotti a Bologna, dello stesso Calogero, però guardate, Calogero in realtà, io l'ho visto una volta solo all'interrogatorio, mi ha dato l'idea di essere veramente un fesso. Calogero è semplicemente uno che ha utilizzato in fotocopia le confessioni da pentito dell'operaio Romito, che forse impressionatosi delle conseguenze, un po' come quell'altro Marino rispetto a Sofri, era corso a rifugiarsi sotto le gomme del Partito Comunista e della CGIL, e quindi gli avevano chiesto un rapporto, che magari lui dice beh, questo è al partito, mica è alla polizia. In questo rapporto c'è di tutto, un sacco di cose attualmente vere, un sacco di cose che poi sono delle illazioni, e soprattutto ci sono anche le millanterie, mitomani, che molti dei compagni, brutto vizio, avevano speso dicendogli a quello per corteggiarlo, come i seduttori di Dozzina per sedurre una donna gli possono raccontare come Battisti di essere stati i capi di tutto. Magari, che ne so io, Battisti magari non ha mai visto una pistola, è uno scrittore come ce ne sono tanti, non so. E allora voglio dire, lì Calogero ha preso questa cosa e lì è cominciata questa pratica. Il segretario del Partito Comunista Padovano dell'epoca, e poi passò alla Rifondazione Severino Galante, i magistrati, ma la racconta Palombarini, che era uno dei pochi che restava, come a quell'infame di Caselli ha fatto le riunioni a Torino e lo racconta Giuliano Ferrara che le faceva assieme con lui, alla quinta lega della Fiora con gli operai, e va in giro raccontando che hanno dovuto dare coraggio agli operai perché andassero a denunciare, guarda, si può pensare tutto, degli operai, delle brigate rosse, dei gruppi armati, della lotta armata, ma onestamente che un operaio che non fosse paranoico proprio come fatto qui io avesse paura delle brigate rosse non mi risulta. C'era molta gente che ne aveva paura, ma gli operai come operai non dovevano proprio aspettare quella faccia da culo di Caselli per avere il coraggio di denunciare poi con quelle tragedie che sono seguite. Non denunciavano proprio, finché non se la sono inventata la federazione del PC, Diego Rovelli, Fassino, Giuliano Ferrara e non mi ricordo chi, l'appello, denuncia il tuo brigatista, no? Allora, voglio dire, però, c'è una cosa, scusate un attimo che infilo qualche momento che rischio di perderlo, ecco, andando a Salti, il 7 aprile, la vera tragedia lunga, umanamente capisco tutti che umanamente, umano troppo umano, la vera tragedia, a ripensarci, è il lancio in grande stile dell'innocentismo politico, perché l'uovo del serpente di tutto quello che è seguito è nel fatto di doversi collocare rispetto alla forchetta binaria innocente o colpevole. Guardate, dei cosiddetti bravi ragazzi un po' giudiziosi, tipo alla Lanzasca, quelli già sanno da parte loro che conviene dire veditela tu, ci rivedremo al processo. Cioè questo fatto già di doverti proclamare innocente o colpevole, capisco, è umano, soprattutto se poi ti accusano di aver tentato di strangolare Rita una sera a Bologna e tu c'hai l'alibi che stavi a New York. Capisco che è troppo da virtuosi, ne parleremo. Però quando tu cominci a subire, dopo aver denunciato che è tornata l'Inquisizione e che c'è il rovesciamento dell'onere della prova, e tu cominci a metterti, a tentare di dover dimostrare la tua innocenza, che in buona filosofia è, da questo nasce la presunzione di innocenza, che bisogna dimostrare che una cosa è, non che una cosa non è. Se la gente va in giro dicendo che Marx ha scritto che non lavora non mangia, che non è vero, io non è che posso mettermi a leggere tutto Marx, più ancora che Enzo Grillo, per dire questa frase non c'è, no? Ecco, allora il problema è che se uno trova che invece c'è, lo dica, come una frase nazistica, come anche la proprietà è un furto. Povero Marx ci ha scritto un libro scapettando Proudhon, dicendo dottor Proudhon, è troppo semplice, perché se la proprietà è per definire il concetto di furto bisogna aver finito prima quello di proprietà, quindi il cerchio si chiude. Voglio dire, se tu ti metti là a costruire centinaia di pagine per dimostrare la tua innocenza, poi l'innocenza diventa cosmica, non è più fattuale, e quindi ad un certo momento, siccome la roba manca, pur con le migliori intenzioni, questo fatto di doverti collocare, di non avere la forza di tentare, mica sto buttando la croce addosso, parlo del futuro, di dire come, no, Sante, io l'avevo detto di Prospero, di non lasciarsi estorcere mai una confessione di innocenza. È un fatto che ha speranza. Non è facile, ma dobbiamo un po' tendere a questo tipo di pratica, perché è da là che comincia. È da là che comincia. Anche perché la dal momento in cui non c'è più l'ipotesi Dio, la prova dell'ordalia con tutto quello che è, e pensare di far coincidere quella che in diritto si chiama verità giudiziaria con quella che si chiama la verità storica, è veramente un crimine epistemologico. Lo stesso diritto, ammettendo l'errore giudiziario, la revisione del processo, in fondo ammette quello che Foucault dice: ogni sentenza, la giustizia penale è un dispositivo di produzione di effetti di verità. E poi facciamo come se, as ob, ed è questa la cosa terribile, ma pretendere di legiferare sulla verità storica, cioè quella assoluta, quella che è un fatto. Questo veramente è la radice di cose tremende, chiunque lo faccia da qualsiasi parte. Quindi cominciano lì tante cose. Un'altra cosa del 7 aprile che vorrei criticare: è chiaro che lì si è introdotta a gonfie vele la contiguità, il reato, quello che dobbiamo riconoscere fa schifo anche quando, mi dispiace, hanno stabilito di scrivere articoli di codice che penalizzavano il concorso esterno in associazione mafiosa, perché poi magari dei mafiosi o degli alberotti non ce ne fotte un cazzo, ma siccome poi la usano a maggior ragione contro noi, o addirittura nemmeno il concorso esterno, il concorso oggettivo, perché se uno è stato eletto sindaco in una zona di alta intensità mafiosa si presume che non può che aver fatto un contratto di patto di scambio, è vertiginoso, no? Allora è vero contestare la penalizzazione, l'intenzione, la contiguità, questo sì, è giusto, ma insistere troppo. Io per esempio sono abbastanza contento all'epoca di aver detto, non di aver detto, oibò, mi chiamate cattivo maestro, ma io ho pensato, ho scritto, non ho agito. A parte che non era vero, e quindi ho pensato che bisognasse riconoscere un po' quello, ma quando anche fosse stato vero, tu devi dire che porta lontano l'idea di accusare di intenzione, di accusare di continuità, di contiguità, eccetera. Ma che al tempo stesso non puoi far passare l'idea che la responsabilità intellettuale sul piano etico non esiste. Perché le parole pesano. E dunque forse era meglio attaccarli dicendogli, e voi giocate a trucco, perché volete colpire quello che nel vostro schema è l'esecutore, il soldatino, eccetera, in nome del carattere personale della responsabilità fattuale e penale. E volete colpire quello che nel vostro schema è l'ispiratore, il capo, non so bene, il guru, sulla base del criterio opposto, cioè usate in modo combinato o alterno questi criteri sempre a trucco. Questo andava detto, questo andava detto, non che è una cosa quasi sacra sul piano penale, sul piano che mette in questione l'habeas corpus, sì, ma sul piano del dibattito io onestamente mi fa un po' raccapriccio l'idea di vedere quello, dice, ma quello ha proprio sparato a quell'altro, e invece quell'altro che teorizza, eccetera, è talmente una figura nobile. Questo è colpo l'attivismo del peggiore, degli intellettuali, dei poeti, delle cose. Quindi i discorsi vanno distinti. Il 7 aprile è stata una cosa terribile, ma secondo me è terribile anche perché in fondo non abbiamo reagito al meglio complessivamente a questa esperienza, non si è reagito al meglio, sono stati introiettati molti elementi pesanti. E adesso per venire a oggi, c'è un argomento, abbiamo detto, nessuno ci dovrebbe venire a insegnare, poi dopo l'esposto che ha fatto Anubi, precisissimo, scusate posso fumare 10 minuti, tanto è finita. non è che qui qualcuno ci deve venire a insegnare, a me succede anche con dei giovani brillanti anarchici della mia regione, e una guarda che c'è un'invarianza, la natura dello Stato, la natura di Dio, ma figurati tu, l'estorsione originaria, perfino Kelsen, e poi dice che alla fine, correggimi se sbaglio, i francesi dicono parlo sotto il controllo, e che alla fine quando la legge è costituita bisognerà organizzarsi per cambiarla, però finché esiste è legittima, non è che lo dice Carl Schmitt o ecco Kelsen, cosa che configura una teoria Kapler o Eichmann. Se la legge quando esiste per il fatto di essere costituita, potere costituito, io li sto qua a gambe proprio contro con i negri, ma parlo di potenza costituente, ma dice siccome è costituito è legittimo, c'ha una sua eticità, poi vedrai di farlo cambiare, e questa è la dottrina di Kapler. E invece il discorso camisiano, che poi è diventato anche istituzionalizzato, sull'obiezione, il dissenso, mi ribello e non eseguo un ordine ingiusto, e quello, capisci, no, vale. Quindi, però vi voglio dire una cosa, seguite sto ragionamento, perché secondo me questo va anche presentato ai nostri nemici in alto, non perché facciamo i loro consiglieri. Io penso che bisogna il più possibile non avere né termini né valori comuni, perché quella diventa quella che Girard chiama la concorrenza mimetica, e quindi è atroce, no? In nome degli stessi valori poi giochiamo a trucco. Per contro, mostrare quando un discorso è, oltre che un crimine, diceva quello, un errore, e quando è perfettamente contraddittorio con i suoi propri presupposti e intenzioni, non è male. Non stai facendo il consigliere del principe, non gli dici ridateci i nostri diritti e altre fumisterie del genere, stai semplicemente osservando quello che c'è. E allora voglio dire, più ancora, forse è una figura di che l'emergenza, la rottura incredibile, pensateci un attimo, è, e in Italia lo possiamo datare attorno al 97, e l'artefice è Citizen Scalfari, quello che sono molti, no? È l'irruzione nel processo penale, nei media, nei mass media e anche poi nei cervelli, certo, della progressiva centralità della vittima, certo, perché quella è un processo davvero irreparabile, perché l'emergenza, anche la peggiore, anche quella che gioca di più il dritto di rovescio, l'eccezione, la regola, comunque parla in nome della ragion di Stato o in nome dell'astrazione di un interesse della società ferito. Ma qui c'è un processo di privatizzazione, e come tutte le privatizzazioni non è vero che sostituisce lo Stato, no? È sempre, anche in economia, no? C'è la combinazione di ibridazione fra la privatizzazione la più spinta di tutto e invece la figura dello Stato, ma questo lo osserva già Polanyi, il mito del mercato senza Stato non c'è mai stato. Allora, pensate, qual è diventato l'argomento per cui lo strumento che esisteva, Anubi sì, che esisteva di regolazione sociale, di politica, che erano le amnistie, gli indulti, si chiamavano rinuncia alla pena, si chiamava oblio giudiziario. Mitterrand, che era un uomo che faceva ancora parte Machiavelli, è terribile, ma quando ha cominciato a denunciare quella cosa che non era una dottrina, perché diceva tutto il contrario di tutto, quindi era una politica, in fondo diceva noi qui facciamo una specie di amnistia per procura provvisoria in attesa che l'Italia si risolva a fare quello che nella regolazione sociale tutti i regimi prima o poi hanno fatto, l'ha fatta pure Mussolini, la storia di Pertini, la regolazione tramite amnistia, dopo aver fatto i 32.000 morti della Comune e i deportati, nel giro di 8-10 anni i Versallesi hanno fatto l'amnistia, De Gaulle ha chiuso quel popò di cosa con 1 milione di morti della guerra d'Algeria, con 4 amnistie, nell'ultima c'erano quelli dell'OAS che avevano attentato sul serio alla sua propria vita. Quindi uno come Mitterrand, che faceva parte, che qui la fine della storia mi sa che c'è, ma non nel senso che pensava, di quella che era la regolazione storica dei processi, pensava per esempio all'amnistia. Ma oggi l'amnistia, qual è il vero modo maledetto? Che di fatto ci manca solo che le sentenze, se fossero più sinceri, non dovrebbero più dire in nome del popolo italiano, ma in nome della parte lesa. È dietro questo che si trincerano, l'eternità. E questa è una specie di società della vendetta, la dilatazione del carattere retributivo della pena fino a diventare totale, che è una cosa molto più abietta che le catene di vendette barbaricine, che almeno erano regolate dal rituale, perché quelle, come osserva Camus, richiedendo di metterci la faccia e anche il culo, sono un riduttore di violenza, mentre reclamare a un terzo che è lo Stato di diventare il tuo braccio secolare per realizzarti la tua vendetta, ma questo è umano ma è terribile. Allora, voi considerate questo, per ognuno, pure per la madre del peggio SS, per dire, l'uccisione di suo figlio è il crimine assoluto, o no? Tant'è vero che si produce questa cosa tremenda che osservava René Girard e Vincenzo Guagliardo ci ha lavorato, quando si congiunge il concetto di vittima e quello di innocente, no? E la vittima è innocente, allora diventano vittime innocenti, non per niente, mica sto dicendo, però chi è stato in galera d'Udine negli anni 50, non so se tu, ma un amico mio sì, sa che questo Santoro era un torturatore. È come Mozze, cioè, io dico, non è che sto dicendo questo, tutti sanno che la gente compagna che adesso presentano come un 24enne cordialone aveva seviziato i ragazzini della Paloma, non è un sospetto, ma io non dico niente, certo, di figli, per carità, però mo che tutti diventino delle specie di santini, così come nei film, nelle sitcom televisive in cui i poliziotti sono proprio fini psicologi, handicappati, lesbiche, sottili, cioè va bene, insomma, non esageriamo. Allora voglio dire che di quale amnistia, il nodo è là, di quale amnistia possiamo parlare se la risposta continua è non posso, cioè l'istituto del facoltà regalien del nostro nemico, mica siamo per lo Stato, che erano tutte le forme possibili di prescrizione, prescrittibilità, grazia, il ministero si chiamava di grazia e giustizia, amnistia, indulto, eccetera. Oggi qual è l'argomento sull'impossibilità? Che c'è la vita. La vittima che ti dice che quando uno esce anche dopo 25 anni a fine pena, riemerge la vittima che dice ma io mi sembra è ancora peggio che il primo giorno. Poi c'è il lobbismo delle vittime, lasciamo andare deputati contro deputati, conosco alcuni che ci sono stati in mezzo che possono raccontare le storie, ma non è questo, è che una volta che hai istituito questo, vuol dire per esempio che loro signori si rimangiano una cosa su cui avevano molto lavorato e che in fondo era nella sua genesi antigiuridica, anche se magari sacrosanta, la formalizzazione del concetto di crimine contro l'umanità. Crimine contro l'umanità in particolare legato a quel particolare tipo di sterminio o di strage che è il genocidio, cioè quello che distingue, che è l'eliminazione anche dei bambini, no? Per cui c'è un'allusione al crimine contro l'umanità, se vogliamo prendere questa cosa nella storia di Torre Maura dell'altro giorno, anche se non hanno sterminato. Il calpestare il pane e dire dovete morire di fame è genocidario come tipo di principio attivo e di cultura, come anche si dice, perché non è che dobbiamo avere i santini, che la frase di San Just, che era retorica, bisogna strangolare i vandeani dalla culla, è una frase che contiene un principio genocidario. I bambini in questo sono un elemento di rimembere. Allora voglio dire, una volta che hai introdotto questa vittimolatria totale e vittimocrazia, rifratta in continuo dalle televisioni, dalle cose, eccetera, vuol dire che ogni omicidio, che un tempo si chiamava omicidio, diventa un crimine dell'umanità, perché c'è almeno 4-5 persone che lo vivono come tale. E c'è l'autorità dei poteri costituiti che un tempo disponeva di alcuni strumenti che comunque se la vive, non lo può più fare. Vi dico, scusate se vi trattengo, nel 88, quando viene rieletto per la seconda volta con una specie di capolavoro di machiavellismo, Mitterrand, presidente della Repubblica, 2 mesi prima c'era stato in Kanaky, quello che il nome coloniale era Nuova Caledonia, questo episodio in cui il fronte di liberazione dei Kanaky sequestra un magistrato, eccetera, e si sviluppa un'azione per cui prima delle elezioni, prima che Mitterrand poi rivincesse, il ministro là dei rapporti con i territori d'oltremare di Chirac fa intervenire i caschi di cuoio e succede che quelli ammazzano tutti, quindi muoiono dentro questa grotta Kanaky, magistrato, come nel caso di Jonathan Jackson, no? Poliziotti, gendarmi, eccetera. Su questa cosa Mitterrand si era giocata, probabilmente era al corrente, ma insomma ha buttato tutta la colpa sull'altro, è stato uno dei fattori per cui ha vinto le elezioni. E poi si passa a un episodio in Francia poco conosciuto degli accordi di Matignon tra il primo ministro Rocard, socialista, e quindi c'erano i Kanaky insorti, delle organizzazioni con il loro leader Gibaou, c'erano i Caldoche, cioè gli eredi dei colonizzatori, ed arrivano a una serie di accordi che prevedono anche un'amnistia. Poi lì c'è una storia shakespeariana, perché Gibaou con la faccia perrea viene in televisione e dice: qui ci hanno imbrogliato, ci hanno incartato, ma abbiamo accettato per avere almeno l'amnistia per i nostri compagni che stanno in galera. Poi successe questa cosa shakespeariana, che quelli liberati per amnistia si sentirono talmente schiacciati da questa cosa, un po' la sindrome di sommersi e salvati, che non potrebbero che andare ad ammazzare Gibaou e poi essere distrutti nella vita. Ci sono dei film, però dico che in quel momento sull'amnistia si creò un comitato dei familiari dei gendarmi che faceva una pressione quotidiana di lobby contro questa amnistia, come la fanno in Spagna se si parla di amnistia agli etarrachi, come in Turchia, come c'è sempre, no, una pressione. Beh, Michel Rocard, ministro di sinistra, con un tono che poteva sembrare sprezzante, gli disse: la cosa, voi non avete diritto di parola, voi siete parti civili, d'accordo, ma l'amnistia, così come la grazia è una prerogativa regale, dicono in Francia, del presidente, l'amnistia è una prerogativa del legislativo. Voi, mi dispiace, è dura, è terribile, ma In due parole la cosa si sgonfiò. Oggi non è più pensabile, Vale, sei d'accordo? Cioè oggi qualsiasi cosa, il vero scoglio, è che ti dico non è possibile, non è pensabile, e poi si mette in moto tutta la macchina mass mediale. Allora dico, scusate, ed era questa la piccola, diciamo, conclusione. Se noi facciamo questo discorso sulle lotte sociali, ci sono dei termini che mi risuonano: il movimento antipenale contro, come ha detto quel compagno, come hai detto tu, contro il panpenalismo, contro la società penale, contro l'uomo penale, perché c'è una trasformazione antropologica in corso, eccetera. Poi, e noi dobbiamo affrontare questo modo qua. E come affrontarlo in questo modo? Secondo me c'è un punto: o su quello riusciamo a mettere una zeppa anche minima, o se no non è nemmeno pensabile niente, è una giaculatoria. E da questo punto di vista io penso che dovremmo superare alcuni tabù. So che qui scontento un sacco di gente, e riuscire a strapparci il più possibile a rifugiarci nel futuro come necessariamente migliore, perché andando coi trend attuali l'unica narrazione di futuro può essere che si va di peggio in peggio clamorosamente. Pensare a un qui e ora effettivo, non come cosa romantica, ma come cosa di un comunismo immanente, per definizione acratico, eccetera. Ma per fare questo in questo campo, secondo me non dobbiamo avere, dobbiamo pensare che il politico è un po' una cosetta che non può contenere questa cosa. Dobbiamo pensare a non avere, secondo me, tabù né nei confronti di forme di azione che fanno parte dell'arsenale della non violenza viva, né di forme d'azione violente. E questo è il paradosso. Quello che tira giù è il legalitarismo, è il pensare che sì, prima siamo 100, poi diventiamo tanti, poi reclamiamo dei diritti, poi strapperemo una legge, poi vinceremo qualche elezione. Ma insomma, il problema è invece, secondo me, io penso, riuscire a combinare il fatto che delle forme di violenza, se volete chiamarla così, insorgente, mi piace questa frase che lessi, stavo a Cuneo Sante, nel cubicolo di Jean Genet, che ritornava alla Stammheim dicendo: non sarò mai neutrale tra la violenza insorgente delle genti oppresse e la brutalità degli oppressori. Figurati, per aver detto che era neutrale, Sciascia, un po' più Amendola lo scorticava vivo. Questo c'è, e quindi avere la forza anche in cose che pensiamo che a volte sono magari sciocche o eventualmente controproducenti, ma avere la forza di non lasciare che Castagner voglio dire, più che criminalizzare, capisci? Riesce a seminare quello che seminano, e anche noi dietro tutto sommato siamo imbarazzati se ci sono forme di emergenza, di insorgenza di tipo violento. E al tempo stesso però, perché dovremmo avere un tabù rispetto a delle forme nell'azione non violenta, nel loro arsenale, che in qualche modo delle volte hanno funzionato? Il manifesto del 121, l'autodenuncia dei Sartre, Lefebvre, eccetera, che rivendicava di aver aiutato Porteur de Valise, disertori francesi, militanti dell'FLN, fu un qualcosa che aveva una forza materiale di trascinamento. Nel momento in cui si discuteva della legge sulla depenalizzazione dell'aborto, il manifesto firmato le 600 salop di donne, cominciava con i grandi nomi, Simone de Beauvoir, Gisella Limi, cioè, che dicevano: noi abbiamo praticato gli aborti con le pompe di bicicletta e il Carman, ci autodenunciamo per questo. Perché questo tabù? Dire se può essere opportuno l'autodenuncia di massa per il reato di solidarietà. Perché no? Perché no? Allora c'è quello che ti dice: ma questo è parmigiano, questo è cattolico, questo è autolesionistico, questo è martirologico. Ma niente è perfetto, né quello né quell'altro. Devi riuscire a combinare delle cose in cui, insomma, se no le chiacchiere sono interessantissime, ma ad un certo momento il gesto, perché l'azione è già una cosa più complessa, ma il gesto è importante, il metterci la faccia e il corpo nelle cose, non facendo, è importante. E allora, se non c'è altro, ma proprio altro da fare, è meglio perfino il fatto che invece di pontificare questi grandi intellettuali, sempre però a parole, magari si impegnino a fare perfino la più vieta e in fondo anche demonetizzata, uso sto termine, pratica di fare uno sciopero della fame. Perché no? Dico, reintrodurre un discorso in cui, ecco, cerchiamo veramente di rimettere, di farci un po' anche di guerra a noi stessi rispetto ai termini che usiamo, rispetto alle immagini che continuiamo a riproporre e così via. Volevo dire tante altre cose, ma ci mancava solo questo. Abbiamo fatto le 12.40, però siete rimasti tutti qua. Se c'è qualcuno o qualcuna che vuole intervenire, perché no? Però non aspettiamo molto. Quindi, se qualcuno lo vuol fare, lo faccia. Non ce ne abbiamo avuto abbastanza. Però secondo me qualcuno dovrebbe concludere un po', perché stiamo... No, sì, è chiaro che... Allora, prima questione, ci sono questi primi momenti di discussione. Io credo che dobbiamo darci da fare, perché questa discussione si è allargata, per quanto riguarda noi, in questa città, anche ad altre realtà, che comunque la repressione la stanno subendo. Perché una cosa che ho ricordato a Roma, che ho ricordato anche un'altra volta qua una sera al VAG, il discorso, facciamo un esempio concreto, nel dispositivo di Salvini c'era una parte sulle occupazioni di case o di spazi sociali, quello che ha prodotto immediatamente, hanno iniziato a sgomberare palazzi occupati, hanno accusato le associazioni a delinquere, chi organizza appunto le occupazioni, sono scattati quei meccanismi che venivano descritti prima dal Vise, ma quello che si è verificato completamente è che sono due mesi che in Italia non c'è più un'occupazione, quindi gli effetti sono poi effetti che vediamo concretamente. E se continuiamo a subirli e basta, senza farci almeno un ragionamento, poi le modalità, le forme, le discutiamo insieme, o resta ad alzare degli stimoli sicuramente interessanti questa sera, ma intanto cominciamo ad affrontare questa questione. E ci saranno altri appuntamenti in altre città italiane. Io credo che dovremmo lavorare per un appuntamento nazionale costruito in maniera adeguata, che veda la partecipazione di tante realtà, un po' come l'Assemblea di Roma ha dato una prima immagine, con partecipazioni di delegazioni di varie città, ci sono stati interventi di diversi gruppi di compagnie avvocati, è interessante anche questo aspetto, con delle assunzioni di responsabilità rispetto a un percorso del genere. Io credo che comunque questo percorso deve andare avanti, perché è necessario ai movimenti, alle lotte e anche a quello che sta avvenendo nella società, che è agghiacciante per certi aspetti, quindi che va oltre noi. Dobbiamo trovare anche le modalità con cui questo dibattito va avanti. Permettila lei, io vorrei semplicemente portarmi a casa una piccola autorizzazione da parte vostra. Se raccolgo delle cose e cui uno si sente un po' ridicolo perché quelli fanno finta di non vederti, no? Io ci sono varie volte in cui ho proprio alzato il tiro, dando, non mi vengono in mente, ma proprio l'infame, nel senso, non nel senso un po', nel senso specifico etimologico, a varie persone. Io me lo permetto solo, per esempio a Napolitano, ricordandogli che lui che ha detto che il crimine più grande è quello di sottrarsi, e lui era già membro dell'ufficio politico, o allora si chiamava segreteria, del Partito Comunista Italiano all'epoca del caso Moralino. Allora uno che dice questo e quell'altro, io ho cercato di alzare il tiro dicendogli delle cose sanguinose, ma naturalmente questi mi ignorano. Di Salvini ne ho dette di tutti i colori. Cerco di farmi notare, non perché voglio fare bello il martire, no? Anche perché, ma perché attirarsi. Ma questi invece denunciano i tipi come Saviano, no? I loro padri, e a te rischiano di annegarti nel ridicolo perché dicono facciamo finta di non sentirlo. E io faccio come Ciccio Cocuzzo, di cui mi raccontava mio padre, che era un anarchico a cavallo del secolo, tra l'8 e il 900, di Casal di Principe, che tutte le domeniche mattine teneva dei comizi. E in fondo c'era un capitano dei carabinieri che faceva dei gran segni di no e gli diceva: Ciccio, non ti arresto, io lo so che tu maledici il re, le cose, un re, questo e quell'altro, perché vuoi che ti arresto. E quello lo ignorava perfidamente. E succede anche a me, ma vi assicuro, non è che voglio fare il mille sgloriosi, anche perché potrei dire mi stringe il cuore. Ho fatto una metafora che qualcuno l'ha presa, ma questo sta male, dicendo, sai quel verso di Majakovskij, quella dell'ultima poesia, no? La barca della vita si infrange contro gli, no, la barca dell'amore si infrange contro gli scogli della vita, compagno partito, diceva mai quello da mille occhi, diciamo il partito invisibile, il partito storico, come dice Marx, dice siamo due a un certo momento, come Bordiga richiama. Lui dice compagno partito il mio amore è Lili Britt, che era la sorella di Elsa Triolet, il grande amore di Aragon, che anche lui aveva un cuore, e io dico è Lucia. E quindi sembra patetico, e non è che ci vado contento in galera, non mi piace, magari poi non so, mi devono mettere in infermeria. Però cercare di recuperare, io scusate, questa storia dell'autodenuncia viene attaccata da tutte le parti e non vedo perché non ci si possa fare ricorso tranquillamente, magari per associarsi a cose che non ti piacciono. Ma insomma, a un altro che cerco di insultare, ma quello magari è Zizek per alcune cose che ha detto in giro, e quando sembrava che se tu non eri d'accordo con lui a stappare le bottiglie di champagne per Trump, questo voleva dire nemmeno che non è mio amico e mio nemico, voleva dire che tu eri un manipolato, nel caso migliore, da, che ne so, Hillary Clinton. Tu dici io, ma chi ha mai detto? No, sotto c'era sta cosa, eri un manipolato del complotto demo pluto giudaico massonico, è questo che voleva dire, no? E poi però almeno la decenza, quando dicevano lui e tutti i suoi amici e almeno sto tratto sarà isolazionista, poi difende gli operai e poi almeno lascerà in pace i palestinesi, te ne accorgi, ed è almeno pezzo di merda di Zizek. Vuoi dire che hai toppato su questo clamorosamente o no? Passi fior da fiore. E questo è una cosa tipica, perdonate, non voglio fare una citazione, degli intellettuali come casta, che passano ad aver definito i 5 Stelle formidabili. Ma che cazzo vi devo dire? Le cose più assurde. Poi dopo dicono che sono invece dei poveri pidocchi. E voglio dire, qui voglio fare un omaggio a Bifo, che avendo preso sta cantonata sui 5 Stelle, da allora si mette la cenere sul capo. E viva Dio, almeno questo. Ma ne conosco molti invece, che si innamorano sempre dell'ultimo grido. E poi quello 6 mesi dopo, e chi li conosce? Puzza via, io, anzi, io pensavo già a quello che viene dopo. Non si può fare così. Quando uno vede cos'è la geopolitica oggi, onestamente, ma come cazzo fai ad accettare il fatto di poterti schierare con questo e con quello, che non lo sa nemmeno lui con chi sta, non lo sa nemmeno lui con chi sta. Va bene, questa è la prima. La prima.